È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Sopra un prototipo di missile tedesco, con 6 gallette cada uno come desco. I nostri eroi van dritti al cuore della marziana, le verdi antenne al nostro duce piegherai. Fascisti su Marte, rosso pianeta bolscevico e traditore. Caro Parenzo, mi ero scordato qualcosa dalla performance ieri alla Camera dei Deputati del nostro amico Antonio Pennacchi, che è il capolista di Futuro e Libertà al comune di Latina. Un comune piccolo, ma certamente importante, soprattutto dal punto di vista simbolico. Mi ero dimenticato qualche piccola chicca. Allora, vuoi recuperare subito? Voglio recuperare subito. Ora, la premessa è questa. Sembra che si sia un po' risentito ieri per le critiche che gli ho rivolto, mentre tu lo difendevi. Signor Pennacchi, noi lo ospitiamo molto volentieri prossimamente a Roma. Perché qui c'è il gioco un po' della democrazia, cioè della discussione tra me. Della dialettica tra me e Parenzo. In ogni caso, ripescaggi di ieri, Pennacchi: Berlusconi ruba ai poveri per dare ai ricchi. Ai fascisti o presunti tali, o opposto fascisti che stanno con Berlusconi, ricordateglielo ogni momento. Il fascismo era levare la roba ai ricchi per darla ai poveri. Mettese con Berlusconi. Visto come andassi diventare, significa levare la roba ai poveri per darla ai ricchi. Chi è il traditore qua? Beh, adesso che il fascismo fosse come dire riassumibile nel togliere i poveri, nel togliere i ricchi per dare ai poveri, intanto mi confondo pure io. Questa è un'idea francamente di Pennacchi. Poi uno, per carità, grande scrittore, tutto, dobbiamo omaggiare, prostrarci, però adesso il fascismo non nella trappola non era solo difendere non era solo questo, no, il fascismo, però appunto, non cado però nella trappola dialettica che per difendere Pennacchi difendo il fascismo, non cado in questa trappola. Non voglio che tu cadi in questa trappola, voglio che ti renda conto, però dico che la pressione fiscale operata dal governo di centrodestra va nella direzione di quella indicata dal sindaco Pennacchi. Vabbè, lasciamo perdere questo ragionamento, vuoi dare come dire una dignità politica a qualcosa che non lo ha, per carità, ha dignità. Dignità politica, che ho detto un'altra cosa. Vabbè, senti questa cosa qua, perché poi a un certo punto parla anche di Mao, bisogna ritrovare l'unità che c'era come nel maoismo, una cosa pazzesca. Senti, noi abbiamo la necessità di ricostruire un nuovo pensiero forte collettivo in questo paese. Abbiamo bisogno di costruire una nuova unità nazionale, sì, anche nello spirito unitario, che era, vi sembra strano, ma che era nello stesso tempo sia dei Togliatti che di Guareschi, che non è marxista-leninista, non è l'unità di classe, oserei dire più maoista, che è l'unità del popolo. Noi abbiamo la necessità di ricostruire una unità di popolo che metta al primo posto la libertà. È una cosa pazzesca. Capogruppo di Futura Libertà Latina, maoismo. Questo è bellissimo. Ma che bellissimo. È bellissimo in un teatro, no, in televisione. È politica. Ma quale politica? Vero, ma quale politica? Quale politica? Al paese. Ma finiscila. Ma quale politica? È straordinario, è vero. Quando uno ritira il premio Strega in un teatro, in una trasmissione televisiva dove si discute del più e del meno, eccetera, eccetera. Ma cosa ci azzecca, come dire, a fare il capogruppo di Futura Libertà Latina? Io non lo so, però glielo chiederò quando ce l'avrò davanti. Contro Tremonti, sentitelo, sai che oggi c'è una grande polemica in casa PDL, caro come Parenzo, galan, no? Galan, beh, insomma, è se vogliamo la polemica del giorno, per passare a cose serie. Galan con un'intervista: fermiamo Tremonti, condiziona il governo e ci farà perdere voti. È un socialista, ritocca tutti i provvedimenti del Consiglio dei Ministri, addirittura, cioè accusa addirittura Tremonti di fregare gli altri, insomma. Silvio riporti il PDL al 94. Ora, la cosa è seria, noi affidiamo però a Pennacchi il giudizio su Tremonti. Sentiamo. Scusatemi se mi allargo, ma c'è un ministro che a me mi sta qua, quando lo vedo in televisione la devo spegnere, è Tremonti. perché 15 anni fa, 20 anni fa, questo diceva: ah, mo arriva il tempo della ricchezza, arriva il del Bengodi, il manifatturiero non serve, c'è la new economy, viene tutto. Mo invece viene di, lo senti, dice: no, ma io l'ho sempre detto che arrivava la crisi. E quando l'hai detto? Dopo che è arrivata, non prima. Vabbè, a me fa anche ridere poi, perché è eccezionale. No, ma ha ragione, entriamo nel merito, ha ragione. Ma finiscila, dai, Parenzo, con questa cosa. Dai, ma ragione. Ragione, c'è no? Un ospite che sta aspettando, non ci possiamo trattenere troppo, noi ci possiamo sfogare per 2 ore e mezzo. C'è un giallo però, che è quello sollevato da Vladimir Luxuria in un'intervista alle Iene. Senti, un giallo pazzesco, giallo alla Zanzara, senti. Quanti politici ci hanno provato con te? Un numero discreto, o perché sono disperati, o perché forse nella media del Parlamento italiano io ero abbastanza commestibile. E con qualcuno ci sei stata? Do prima una risposta per le Iene, e che vi consento di andare in onda, e mai. Quella invece che dovete tagliare per forza è... sì. Giallo! Chi ha provato, chi ci ha provato con Vladimir Luxuria? Vabbè. Però abbiamo tante altre cose oggi, non abbiamo solo questo. Naturalmente iniziamo con Adolfo Urso, buonasera. Buonasera. Come sta? Come sta? Lo so che è un po' scioccato da questa nostra vena così un po' ridanciana, però insomma, tant'è. No, è una giornata gioiosa. Meno male, ci dobbiamo un po' ridere, esatto, esatto. Il sole, ci prepariamo tutti a trascorrere qualche festività, me lo auguro. Assolutamente, a Roma c'è il sole, a Milano anche. Parenzo, dove ti trovi? A Roma mi anche tu, no? A Roma, Piazza di Pietra. A Piazza di Pietra. Dopo me la prenderò col tuo amico Telese per una cosa che ha scritto oggi sul Fatto Quotidiano, No. Te l'annuncio subito. Berlusconi è colpevole di distruggere i corpi delle donne ed è in flagranza di reato, perché oggi ha visto evidentemente il corpo ritoccato di Noemi Letizia sul settimanale, oggi se l'è presa con Berlusconi. Vabbè, ma ne parleremo dopo. Signor Urso, lei si sente rappresentato da Pennacchi? Pronto? Sì? Sì? C'è, vero? Domanda a bruciapelo. Mi sento rappresentato da Pennacchi. Io che, è il capogruppo del suo partito. Letterario? No, Pennacchi è l'ispiratore della lista, ma non è candidato. Ma come non è, no, come non è candidato? No, lui, lui dice che farà il capolista. No, lui ha dato il nome alla lista, ma non è candidato. Ah, perché, ho capito male. D'altra parte, questo sembra essere un esperimento letterario. Ma scusi, lei è un esperimento letterario? Cioè, che cos'è un esperimento letterario? Questa lista? Certo, è un esperimento letterario. Che la politica non c'entra niente. Pennacchi, un grande scrittore che ha vinto meritatamente il Premio Strega sul libro del Novecento. Sì. E questo è l'esperimento letterario, diciamo la traduzione di quel grande libro. Quei personaggi scendono in campo e io credo che lui abbia fatto una bella iniziativa che non ha nulla a che vedere con la politica. Ah, ecco, questo volevo dire. Siccome io la penso come lei, che non ha nulla a che vedere con la politica, però si dà il caso. Ovviamente un esperimento letterario da retromarcia. Che significa una città che ancora ama chiamarsi talvolta Vittoria e non Latina. Dunque, da retromarcia che guarda al passato, insomma, in realtà non si sa bene a cosa guardi. Lei ha capito che cosa significa fascio comunismo, per esempio? Io no, però insomma, magari lei mi può ispirare, Urso. L'ho già detto in altre occasioni, io sono agli antipodi del fascio comunismo e quindi bisogna sapere cosa meno significa. Capacità di altri di dire quello che può significare. Senta, ma allora, però lei dice una cosa, lei dice che tutto è tranne che politica, perché questo dice sostanzialmente. Però si dà il caso che ieri alla presentazione di questa lista, adesso verificheremo se me lo dice lei, però è sicuro che Pennacchi non è candidato, c'erano però due esponenti del suo partito anche abbastanza importante, uno come ruolo molto visibile, l'altro che è Fabio Granata, il primo è Bocchino. Come se lo spiega lei? Cioè, insomma, si sente rappresentato da quella lista o no? E perché lei non c'era, soprattutto? Vabbè, per il motivo per cui non c'è mi sembra evidente. L'ho già detto, è un esperimento letterario, io ritengo che sia diverso il messaggio politico che noi dobbiamo dare. Per cui se lei fosse a Latina non la voterebbe quella lista? Se io fossi a Latina avrei difficoltà a votarla. Però esca un po' dalla per carità, lei ha già detto, però, lei ha già detto come la un'iniziativa simpatica. Un'iniziativa simpatica, ecco. Però per ora parliamo di politica. Allora una domanda soft per Urso: quando uscirà da Futura Libertà? Vabbè, ma questo che c'entra adesso, uscire da Futura Libertà? Ma comunque, andiamo la risposta Urso, però prima c'era una considerazione. Io vorrei che lei fosse chiara su questo. Fosse a Latina, lei quella lista non la voterebbe, mi dica la verità. Questa è seria la domanda, eh? Guardi, io poi ho un senso del dovere che travalica infatti, ogni cosa. Questo la frega un po' ogni tanto. Purtroppo, sì, fa parte un po' della mia cultura di destra. Vabbè, per cui la domanda di Parenzo la rispediamo. E poi tanti amici sono in lista che hanno creduto a questa avventura, io non ci credo. Ma lei non crede a questa avventura. Bene, però la cosa però bella lei di queste interviste a Urso cos'è? Sono anche i silenzi, infatti. Quindi, alla radio i silenzi in teoria non funzionano, in questo caso funzionano, però. sono notizie. Senta, lei è con Galan o con Tremonti, tanto per essere chiari? Non mi dica con nessuno dei due. Sono fuori dal PDL. Vabbè, lei è stato ministro però di questo governo, insomma. Tremonti lo conosce bene, no? Certo, Tremonti è stato un ottimo ed è un ottimo ministro per quanto riguarda i conti pubblici, gli manca la seconda parte, quello dello sviluppo. Anche questo piano nazionale di riforme purtroppo soltanto il nome. E questa è una critica nei confronti di Tremonti. Che noi dobbiamo fare invece è appunto le riforme. Su questo si può ragionare, si può anche incontrare. Detto questo, hanno ragione coloro che dicono senza Tremonti sarebbe stato peggio. E voglio dire, le critiche che ha lei io penso però che bisogna lavorare per il meglio. Però voglio dire, le critiche che Galan ha fatto a Tremonti sono quasi filosofiche da un certo punto di vista. Cioè è un socialista, è uno che comunque non può incarnare lo spirito del 94, che è quello di Forza Italia. Lei non appartiene a Forza Italia, insomma non è liberista, e dunque A quello spirito mi riconosco. Quella rivoluzione liberale è rimasta incompiuta per tanti motivi, ed è quello che oggi in qualche misura macera il PDL e il centrodestra italiano. Le riforme mancate. Dunque, da questo punto di vista ha ragione Galan. Sì, Tremonti ha guardato il bidone e l'ha saputo fare bene. Il problema è che ci si aspetteva altro, non solo, ovviamente non tanto, da Giulio Tremonti, che io considero davvero uno dei migliori ministri che l'Italia e l'Europa abbia avuto, ma in generale dal centrodestra italiano, che una promessa aveva fatto, quello di un sogno che è rimasto incompiuto. E da lì bisogna ripartire, se possibile, quanto possibile anche insieme. In una risposta... In questo Galan è un po' ingeneroso nei confronti di Tremonti. Se non ci fosse stato Tremonti sarebbe stato peggio. Poi andiamo col traffico. Lei tornerebbe a fare il ministro del governo Berlusconi in questa legislatura? Ma assolutamente no. Io dunque si legge di possibili... Si legge che Berlusconi possa lasciare libero un ministero anche per lei o per Ronchi. Auspico che quel ministero sia riempito il più presto possibile, anche perché mi appare davvero paradossale, incredibile, che un paese come l'Italia, che oggi deve confrontarsi in Europa rispetto alle grandi problematiche che derivano dal Mediterraneo e non solo, non abbia il ministro per le politiche comunitarie. Non abbia da 5 mesi il ministro delle politiche comunitarie. E un paese come l'Italia, che è un grande paese esportatore e siamo il primo partner commerciale della sponda sud del Mediterraneo, da 5 mesi non abbia il delegato al commercio con l'estero. Ecco, io credo. Però glielo dica Berlusconi, quel posto non lo lasciare libero per me. Glielo dica qui dalla Zanzara, caro Berlusconi, quel posto io non lo tornerò ad occupare. Glielo dico. Questo l'ho detto. Letterina. Anche a lui. Gliel'ha detto anche a lui? Ma quando gliel'ha detto? In un sogno che ho fatto. No, beh, in un sogno, adesso non ci prende in giro. In un sogno che ho fatto. Io l'ho detto anche a lui, ho detto mi sono svegliato sollevato. No, non è un sogno. Lei ha detto, Il governo. Credo che sia un caso più unico che raro, lasciare il governo, peraltro credo aver fatto bene quella mansione, come dimostri i dati anche sulle esportazioni italiane. Ho lasciato quel governo lo dico senza rimpianti, per una scelta squisitamente politica, questo posto, ecco, chi pensa che le soluzioni del paese siano nei numeri della maggioranza acquisiti in Parlamento e nei posti lasciati aperti per qualche appetito sbaglia profondamente. Torniamo subito dopo il traffico. Comunque, l'onorevole Urso ha detto, mi ha chiamato Berlusconi, mi ha chiesto se voglio quel ministero e io ho detto di no. Ho sintetizzato bene, credo. A tra poco. Fascisti su Marte. Bene, siamo tornati per gli ultimi minuti, 6 minuti prima della pubblicità, 800 24 00 24. Ho imparato, Parenzo, un nuovo termine oggi, leggendo i giornali. Oclocrazia. Dopo tutti i termini che abbiamo imparato con Scilipoti recentemente, c'è anche l'oclocrazia. Lo ha detto Remigio Ceroni, che più tardi sarà qui ai nostri microfoni, sindaco di Rapagnano, e quello che ha fatto la proposta di modifica dell'articolo 1 della Costituzione, di cui si discute a sproposito perché naturalmente non succederà mai. Ma in ogni caso, oclocrazia, ha detto, vi salvo dall'oclocrazia. Lei lo sa che cos'è. Tutto si può concepire, salvo una democrazia che è sottoposta soltanto al volere della maggioranza. La democrazia è fatta per tutelare le minoranze, non per imporre il volere della maggioranza. Sì, anche se dovesse passare quell'articolo, non è che ci sarebbe la dittatura del Parlamento, è tutta un gioco politico, cioè non c'è serietà. Però obiettivamente è davvero un obbrobrio proporla, e credo che la reazione sia stata giusta. Ma perché non si torni a ragionare piuttosto che brandire la giustizia con un'arma politica, gli uni contro gli altri, invece di risolvere quello che sono davvero i problemi del paese? Con queste proposte non si va lontano, si danno soltanto cortugne e fumogene. Senta un attimo, sembra essere, almeno in molte città, obiettivo del suo partito, Futura Libertà, che credo sia ancora il suo partito, no? Certo, ho contribuito nel fondarlo. Lei sfiderà nel futuro, se la sente dire una cosa del genere, cioè voglio prima o poi, quando ci sarà un congresso di Futura Libertà, congresso eccetera eccetera, voglio sfidare, voglio ambire alla leadership di questo partito. Credo voglio ambire a rinnovare il centrodestra italiano. I partiti sono piccoli strumenti rispetto alle prospettive politiche. Dunque Futura Libertà è uno strumento, non è? Occorre non innamorarsi. Questo è interessante. Quello che è importante, cioè destinato a scomparire prima o poi. Cioè destinato a scomparire, nel senso altro. Ci mancherebbe altro, è un partito. Credo che questo sia nell'auspicio di tutti, noi vogliamo. C'è un passaggio. Ci mancherebbe altro, un partito di scopo, cioè nel senso che noi siamo nati per rinnovare e rifondare il centrodestra, e con un bipolarismo più maturo e compiuto. Non ci possiamo certamente innamorare dello strumento, ma dobbiamo guardare l'obiettivo. Senta, se ci saranno i ballottaggi, naturalmente lei mira come tutti, o comunque si augura che i candidati appoggiati da Futura Libertà possano vincere in alcuni casi al primo turno, ma insomma nelle grandi città questo sembra molto difficile. Ma mettiamo che ci sia il ballottaggio tra un candidato del centro-sinistra e un candidato del centro-destra. Lei, Adolfo Urso, dirigente importante di Futura Libertà, per chi darebbe indicazione di voto? Lo decideremo insieme dopo il primo turno, ovviamente. Comunque, in ogni caso, ritengo che sia naturale una scelta in sostegno del candidato del centrodestra, salvo ovviamente che questo. Cioè la Moratti lei l'appoggerebbe al secondo turno contro Pisapia eventualmente? Ma non vedo nulla di scandaloso. Dunque sia la Moratti. No, vabbè, ma è Montanelli che diceva spesso a Milano. Diceva talvolta bisogna farlo turandosi il naso. Ah, lei dice sia la Moratti turandosi il naso. No, non dico questo. Dico in generale che è una trasmissione satirica, e quindi bisogna credo che sia satirica. Sì, no, ma mi fa piacere che lei lo dica, però insomma, adesso voi non è che bisogna buttare tutto, sennò sembra uno non siamo come Pennacchi, quello è diciamo, più o meno un'altra cosa. No, non mi toccare Pennacchi. Siamo la parte che ci siamo dati, questa è una trasmissione satirica, e quindi è chiaro che è giusto che sia così. In termini politici dico che mi sembra più naturale il sostegno del centrodestra, salvo casi eccezionali, non Cioè a Napoli, per esempio, ecco, no, è interessante anche il primo turno. Cioè lei, perché c'è stato un po' di maretta, come lei sa, là a Napoli, no? Cioè lei, il suo candidato chi è? Il candidato di Adolfo Urso? Non sono cittadino di Napoli, non ho bisogno di avere candidati, nel senso che io credo che queste debbano essere soprattutto elezioni amministrative. Non portiamo tutto nella caccia alla politica. No, ho capito, però tra il candidato Lettieri di centrodestra e quello del terzo polo, dove c'è stata anche un po' di maretta in casa Futura Libertà, come lei sa benissimo, lei chi sceglie? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Ogni tanto cade la linea con la Camera dei Deputati, o non so come. Pronto? Sì, pronto? Si sente Urso? Sì, pronto. Cioè, allora lo dico io, però poi a quel punto lo dico io. Lei, cioè, tra Pasquini, come si chiama? Pasquini? Come si chiama il candidato? Pasquini. Pasquini o Pasquino? Pasquini? Lei lo sa il nome? Nemmeno il nome sa. Il candidato del terzo polo. Pasquini o Pasquino? Come si chiama? Onorevole Urso? Non lo sa nemmeno, non risponde. Pronto? Pronto? Tra Pasquini, pronto? Tra Pasquini e Lettieri, chi sceglie lei? Pronto? Vabbè, allora, non rispondo, non scelgo nessuno dei due, d'accordo, ho capito. Nessuno dei due. Pronto? No, però è sintomatico tutto ciò, no? Cioè, okay, quando, una cosa pazzesca. Quando i silenzi diventano notizie è meraviglioso. Onorevole Urso, se lei continua... Di cosa vuole che parliamo? Urso? Di cosa... Dica lei che domande fare a questo punto, non lo so. Ah, no, una cosa, è una cosa interessante, Urso. Chi sceglie tra Pasquini e Lettieri? Tra Pasquino e Pasquino e Lettieri. Ma a Roma si vota? Un'ultimissima cosa che stiamo in conclusione. È vero o no? Questa mi è venuta in mente adesso, che Tremonti in Consiglio dei Ministri si approva una cosa e poi lui ritocca il provvedimento. Lo conferma? Chi ne fa parte? Eh? Lo chiede a chi ne fa parte? Beh, lei ne ha fatto parte, ogni tanto era al Consiglio dei Ministri o no? Succedeva quando era lei al governo o no? Ma succede che normalmente si approvano dei provvedimenti. Sì o no? Vabbè, ho la pubblicità, devo andare col giornale radio. Non vuole rispondere su nulla, sono disperato. Siamo qui, caro Parenzo. Sono le 19:17, 800 24 00 24. Più la leggo e più mi convinco che l'intervista del ministro Galan e in più l'articolo di prima pagina di Sallusti sul giornale di oggi rappresentano uno dei fatti più importanti forse di questa legislatura o dei rapporti all'interno del PDL, perché per la prima volta un ministro del governo Berlusconi attacca il grande dominus della maggioranza, cioè dire Giulio Tremonti. C'è un attacco frontale, nemmeno, non c'è stato mai nessun finiano che ha attaccato in maniera frontale Tremonti. No, non è necessario attaccare Tremonti. Ma insomma, un attacco così forte nei confronti del vero dominus della maggioranza non c'era mai stato. Addirittura in un passaggio dice: ci fa perdere le elezioni. Così, ci fa perdere le elezioni. Vabbè. Ma è una doppia notizia, però, perché e qual è la doppia notizia? Sì. No, questo è da una parte un fronte pesante all'interno del governo, l'altro fronte è quello di Milano, perché quando Sandro Sallusti sul suo giornale di oggi ci spiega che anche lui forse un po' spinto dalla signora Santanchè, e forse un tantinello spinto come non abbiamo... lo sappiamo, non possiamo fare illazioni, no, per carità di Dio. Però quando dice che a Milano ad esempio il caso Lassini è un caso interessante e anche lui voterebbe per Lassini, si capisce la doppia partita che si gioca, cioè la Moratti vuole sganciarsi dal Berlusca, il Berlusca invece radicalizza lo scontro sulla questione dei magistrati e chiede il voto a Milano su quello, perché il silenzio, questo è il suo giornale, il giornale di famiglia. Sì. E prima di tornare con l'ospite che è in questo momento su Marte, perché non ci rispondeva, te lo ricordi? Sì. Poco è la prima intervista dove i silenzi sono delle risposte, meravigliosa, meta radio, bravo Cruciani. Bravo, veramente Cruciani. Non è merito mio, ha fatto tutto l'onorevole Urso, che è ancora in collegamento con noi. Vabbè, comunque, onorevole Urso, sentiamo i titoli del TG3, è un minutino, perché a differenza dei titoli della 7, il TG3 fa dei titoli molto brevi, e abbiamo un'annunciatrice d'eccezione per questi titoli da un po' di giorni, vero Parenzo? Qual è l'annunciatrice? La signora, Maristel Polanco, già protagonista della cosiddetta vicenda delle feste a casa del Presidente. Bravo. Buonasera a tutti. In questo momento va in onda il telegiornale di Bianca Berlinguer e ascoltate cosa deve dire. Galan e Scajola contro Tremonti ci porterà alla sconfitta. Berlusconi lo difende, piena fiducia, giusta la linea del rigore. Tensione sempre alta su giustizia e Costituzione, nel PDL c'è chi propone votiamo Lassini, l'opposizione governo paralizzato. Massimo Ciancimino fermato per calunnia nei confronti dell'ex capo della polizia Gianni De Gennaro, lui dice sono un uomo solo. La Libia minaccia ritorsione a Italia, Francia e Gran Bretagna per l'invio di addestratori, a Misurata si piangono i due fotoreporter uccisi. Marchionne pronti a controllare Chrysler entro l'anno, sindacati preoccupati, Marcegaglia spero che Bertone resti in Italia. Voi lesbiche da mandare ai forni, la deputata del PDL del PD Paola Concia è insultata per strada mentre passeggiava con la sua compagna. A 6 mesi dal crollo il TG3 torna a Pompei tra affreschi deturpati dai graffiti e muri che si sbriciolano, per manutenzione solo 4 operai. Bene, bene. Beh, chissà chi è quel cretino, quei cretini che hanno insultato per strada l'onorevole Concia, che era insieme alla sua compagna. Naturalmente la cosa non ha nessun tipo di valenza politica, anche se qualcuno cerca di dargliela. 800 24 00 24, questa è la Zanzara. Allora, onorevole Urso, qualche secondo ancora, poi la libero. Ci sente oppure siamo sempre su Marte? No? Ci sente, sì. Pronto? Non è colpa mia se avete collegamenti talvolta. Lo so, lei, su questo lei ha ragione. Eravamo al termine oclocrazia, una delle cose, lei l'ha capito bene questo termine oclocrazia, cosa significa? Ceroni, ce lo spieghi fra poco quando viene ai nostri microfoni, intanto ce lo spiega Urso se l'ha capito. Ma oclocrazia, Ceroni è un linguaggio particolarmente forbito, il mio è molto più semplice. Sì. Sì. E quindi molto meno comprensibile. Senta Urso, però a proposito della vicenda Pennacchi, è vero che gli ha dato del coglione Pennacchi, detto alla romanesca, diciamo, detto alla Pennacchi, diciamo? Ho letto così. Come mai? Come mai? Sai che l'ho incontrato alla Camera casualmente dopo quella conferenza stampa? Sì? Sì, devo dire che è stato molto, molto cortese, mi ha detto... L'ha chiesto scusa? Mi ha detto qualcosa di più, cioè? Ha detto che è rimasto particolarmente colpito della signorilità delle mie risposte, perché ho risposto sul Riformista spiegando perché ovviamente la pensavo diversamente da lui. Ma non gli ha chiesto scusa per quella parola, no? Beh, queste cose le deve dire il soggetto interessato. Vabbè, ma non è un mistero di Fatima, no, non è un mistero di Fatima, adesso con tutto il rispetto. Siamo stretti la mano, perché devo dire che mi ha colpito... favorevolmente, peraltro io non porto ancora mani nei confronti di nessuno, mi ha colpito favorevolmente il modo come lui ha affrontato la questione appena mi ha visto. Lei non porterà ancora e lui non porterà ancora, però le parole restano in qualche modo, no? O secondo lei fanno parte un po' del personaggio così irruento, eccetera? Ma certo, fanno parte del personaggio, molto irruento, e voglio dire, e poi gli è sfuggita, anzi mi ha detto, cioè io ho detto al giornalista di a Luca Telesi, sì. E questi giornalisti cosa compiono? Onorevole Urso, gli ho detto però... anche questi scrittori, ho risposto io. Sento, l'ultima cosa, ha scoperto come si chiama il candidato a Napoli del suo partito, oppure ancora no? Cioè Pasquini o Pasquino? Cioè quello che lei non voterà, mi sembra di capire, cioè non voterà perché non vota Napoli, quello che lei insomma non considera molto il suo candidato, mi sembra di capire. Ho capito male. Pronto? Niente, qui si interrompe di nuovo. Napoli è già una città così complessa, in queste condizioni sono talmente drammatiche che l'importante è che ci sia un cambiamento rispetto alla situazione attuale, e poi il resto credo che i napoletani siano in condizione di scegliere con totale autonomia, perché proprio vivono questi problemi sino in fondo, davvero drammatici, una città che deve assolutamente cambiare. Cioè, se vince Lettieri lei non si strappa i capelli, insomma. Non mi strappa i capelli. Cioè, è contento se vince Lettieri, che candidato. Guarda, in Napoli può succedere di tutto, lo dicono tutti. A Napoli, perché la situazione è davvero drammatica, quindi... Ma perché Bocchino ha detto... Lasciamo stare che i napoletani scelgono in piena autonomia. Sì. No, ho capito, però stiamo parlando, vede. Però il vicepresidente del suo partito ha detto al secondo turno mai con Berlusconi e col PDL. Lei ci sta dicendo una cosa completamente diversa. Qual è la linea di Futura Libertà da questo punto di vista? No, lui ha poi rettificato, ha detto al secondo turno, almeno quello che ho letto io, decideremo insieme, questo me lo auguro, e comunque in ogni caso, quando ci siano delle posizioni diverse, sarà libertà di voto. Io in quel secondo turno esprimerò in piena libertà laddove posso considerare, poi in fin dei conti. Il mio peso è assolutamente relativo. Lei dice che è relativo, cioè non voto, parenti non ne ho in quelle città, credo che abbia difficoltà anche a influenzare il voto e non voglio influenzarlo. Dobbiamo chiudere, Parenzo, che domanda vuoi fare? No, dicevo che anche delle persone, onorevole Urso, scusami, è su Marte, anche delle persone che sta aspettando, non è che possiamo trattenerlo qui per 3 ore. No, per carità, certo, non c'è dubbio, volevo solo dire che questa vicenda delle elezioni amministrative sta riaprendo, come dire, antiche ferite o recenti ferite dentro Futuro e Libertà, perché non è vero che saranno i napoletani solo a scegliere. Cioè, è un voto nazionale, è chiaro che è un voto nazionale, onorevole Urso, questo si può dire. Io ho detto esattamente il contrario, sono in sintonia con questo. Noi dobbiamo evitare che dietro la cortina fumogena della situazione nazionale vengano nascosti i problemi e quindi le soluzioni per il governo delle città. E più si radicalizza lo scontro, più male si fa a queste città. Ho capito, però lei si impegnerà per la campagna elettorale. Quindi è giusto che sia un'elezione amministrativa. I cittadini scelgono sulla base delle candidati che conoscono meglio di me e sulla base dei programmi che ovviamente possono confrontare rispetto a... Ma è normale, però, Urso, scusi, che in campagna elettorale i dirigenti di un partito si spendano sul territorio per sostenere questo o quel candidato. Vado a fare campagna elettorale, una densa gente elettorale. Ma è ovvio a Napoli ci va? È ovvio, cioè andrò anche a Napoli, è ovvio per appoggiare chi? È ovvio che io cerchi di far capire che è sbagliato agire con l'anello in mano in campagna elettorale amministrativa confondendo la realtà. Capito, però quando lei va a Napoli va quando c'è un comizio di Pasquino o un comizio di Lettieri? Quando vado a Napoli mi piace mangiare il babà. E con questo è con Latina che fa Latina non va e non va da nessuna parte. Latina non va. In alcuni piccoli comuni c'è anche un'alleanza tra Partito Democratico e Futura Libertà, le faccio notare, a Olbia, a Cassino, lei dice troppo piccole, non è significativo. Ma Olbia è un caso un po' diverso, c'è un sindaco uscente che è stato costretto a dimissioni, che era un esponente del Popolo Libertà, quindi il candidato a sindaco è un candidato di tutto rilievo, sindaco uscente, che è stato costretto a dimissioni per una faida interna al Popolo Libertà, quindi altra questione, no? Se il candidato nostro, ben venga la coalizione. E Cassino? Cassino non conosco la realtà sinceramente di Cassino, è ovvia, la conosco perché vi sono stato prima delle elezioni proprio per incontrare questo sindaco. E mi piace anche quello che si è verificato nelle Marche, alleanza a Macerata e in altre città delle Marche tra il PDL e Futuro Libertà. Non c'è solamente c'è soltanto Cassino, c'è anche Macerata, Fermo e tante altre realtà. Io credo che sia naturale che noi dobbiamo lavorare per rinnovare il centrodestra e realizzare un bipolarismo più compiuto, e questo su cui mi spenderò io, al di là delle battute, dell'ironia, in cui è necessario ovviamente per quanto possibile una trasmissione in cui ciascuno deve fare la sua parte. Grazie onorevole Urso, grazie, buon lavoro. Grazie a te, arrivederci. Insomma, adesso trasmissione satirica, non esageriamo, non è che stiamo qui a pettinare le bambole, insomma, come come si dice in gergo, siamo giornalisti, ci sono anche notizie che escono, sì, notizie che escono fuori come un leone, diceva Renato Zero, come un leone. Parenzo versus Cicchitto ieri sera, no, da Exit, mandiamolo via, non si può vedere naturalmente perché siamo in radio, però sentirete un Parenzo versus Cicchitto, i giornalisti contro il potere. 26 processi, sì, perché c'è, quindi dobbiamo sorbirci il comizio ogni volta che va al processo, Rusi. Ogni volta c'è, non è che ogni volta c'è il Predellino. Non è ogni volta c'è il Predellino. Il comizio lo stai, il comizio lo stai facendo. Ogni volta c'è il Predellino. Senti una giornata. Il Predellino davanti al Predellino, ci stai salendo. Sono basso come Berlusconi, quindi io mi sono alzato sul Predellino. Cioè ogni volta c'è il Predellino, comunque ci dà una notizia. Lo rimandiamo. Ma che hai fatto? Ti sei alzato a un certo punto? Che hai fatto? Ti sei messo, ti sei alzato in piedi sul Predellino, che è sulla sedia che dove eri lì a Exit? Vabbè, vabbè. La, sulla sedia no, perché non volevo sporcare la sedia degli amici della Sette, e quindi mi sono però alzato in piedi. Stai calmo, stai calmo, il comizio lo stai facendo tu, grande Cicchito, grande lottatore Cicchito. Va bene, Borsa, torniamo tra un attimo con tutti gli ascoltatori. Antonio provincia di Roma, Barbara da Milano, Roberto da Torino, Antonio da Bergamo, Stefano da Frosinone, a tra poco. Siamo qui, 19.33, mi ero distaccato un attimo, caro Parenzo, ero uscito dallo studio, mi hanno richiamato all'ordine. Perché eri andato via? Ero andato via a controllare delle cose, ogni tanto mi alzo, non è che posso stare qui inchiodato per 2 ore e mezzo. Controllare delle cose. E non è che sono andato a uccidere, a mettere nell'acido un bambino, abbi pazienza, cioè sono andato semplicemente a controllare delle cose. Va bene. A prendere ordini dalla struttura Delta, bravo Cruciani. Ma non prendo ordini dalla struttura Delta, almeno non durante la trasmissione. Poi, secondo qualcuno, sono etero diretto da Palazzo Grazioli, figuriamoci un po'. Barbara da Milano, buonasera. Barbara Spinelli? Buonasera. No, Barbara Spinelli non è Barbara Spinelli, è una signora che si chiama Barbara e chiama da Milano. Che cosa c'entra Barbara Spinelli? Sei fissato con questi giornalisti, editorialisti, no, gente comune, non Barbara Spinelli. Guarda, Parenzo, sono proprio l'ultima ruota del carro. L'ultima, no, beh, adesso non si butti così giù, signora Barbara. E sono pure di Latina. Di Latina! Ma lei vota a Latina? Lei vota a Latina o a Milano? Io voto a Latina. Lei ha votato a Latina. Cari cittadini di Latina, innanzitutto Pennacchi non è capolista, è l'ispiratore di questa lista. Dunque, ho detto è un peccato, io l'ho chiamata per difendere Pennacchi, perché lei ieri lo ha definito un grezzo. No. Attenzione, parola, ma io ho detto grezzo volendone esaltare le qualità, da questo punto di vista, certo, assolutamente ma, sì. No, non è, lei intendeva grezzo dal punto di vista politico, per carità, ho capito il senso, però grezzo non va bene. Lei deve capire che Pennacchi, questa se la può segnare, gliela regalo, è un canale Mussolini piena. Un canale Mussolini in piena. Allora, canale Mussolini è il titolo del libro che ha vinto invece il premio. Un fiume in piena è un canale Mussolini in piena. Bella questa, non è male, Parenzo. Brava, no? Barbara. La segno? Grazie, Parenzo. La segni, però è mia, mi devi diritti. I diritti, okay. Signora Barbara Damiano, benissimo. Okay. Canale Mussolini in piena. Lei deve sapere che a Latina le campagne elettorali, soprattutto quelle amministrative, sono una noia mortale. Quindi, meno male che è arrivato Pennacchi. Meno male che Pennacchi c'è. Canta tu, Parenzo. È veramente sanguigno, dice le cose che pensa. È un po' Beppe Grillo, però c'ha quella vena romana che ci piace tanto a noi che siamo antilega. Quindi ben venga anche questo accento laziale. Beh, diciamo che l'accento, l'accento così non è che manca a Latina, anche tra gli altri candidati penso che non siano, cioè non è che siano tutti così precisini. Pennacchi ha proprio un gran bell'accento, diciamo, della terra laziale. Vabbè, ma a lei piace Pennacchi solo per questo, perché è un personaggio fuori dalle righe, perché non è un politico corretto, eccetera eccetera, politicamente corretto. È il rappresentante perfetto per una città di Latina, anzi mi dispiace che lui non si candidi, l'avrei votato anche se io sono molto molto comunista, però lui rappresenta esattamente questa confusione latinense che negli anni si è diffusa in tutta Italia. Il fascio comunista è un po' l'imprenditore che fa la beneficenza, ma poi se può non paga le tasse. Ma questo che c'entra col fascio comunista? È un po' il fascio comunista. comunista. No, scusi, è il contrario, il fascio comunista è quello che... Da staccione e poi, però in realtà è tutto griffato. Latina è l'emblema da sempre di questo ed è una cosa che adesso si è diffusa in tutta Italia, sempre di più, si nota di più. Vabbè, adesso faccio fatica a definire Latina come il prototipo della società italiana, ma non perché abbia qualcosa contro Latina, perché non credo che possa rappresentare questo. Comunque, però lei che vota molto, a Latina, scusi, molto, mi faccio gli affari suoi, che vota? Guardi, sono un po' in difficoltà. Perché lei vorrebbe votare il Partito Democratico, il candidato della sinistra, diciamo, no? Vorrei votare Moscardelli, però che è il candidato del, diciamo, del centro-sinistra. Quella faccia un po' lì da PD che un po' mi intristisce. E dunque voterà la lista di Futuro e Libertà. Però non conosco ancora Cusignani, che invece è il candidato di Fini, e quindi devo studiare. Deve studiare, certo, una di sinistra che deve, alla fine vota gli ex fascisti. Vabbè, ma succede anche questo. Ma perché... no, non sono gli ex fascisti, sono i fascio comunisti, capisce? Cioè, infatti, forse sì. Ancora è una nuova categoria della politica, ma giusto? Che nuova categoria? Ma la gente a Latina, diciamo la verità, Parenzo, la gente a Latina, nei bar. Quello può andiamo essere, ma allora la gente nei bar a Latina, o non so dove, la gente così, ma che cosa ne sa del fascio comunista? È una cosa da snob elitaria. No, la gente non capisce nulla, il fascio comunista. Ma perché devi dire la gente non capisce? Ma la gente capisce tutto, perché devi dare per... Accio Benassi, il protagonista del libro Il fascio comunista, è un personaggio strepitoso, strepitosamente italiano, intriso di cultura politica, di passione civile, lo capisci o no? Punto di domanda. No, non lo capisco. Grazie Barbara, grazie di questo intervento. Antonio da Bergamo, buonasera. Buonasera. Dica. Io sono un leghista pentito. Che dobbiamo fare noi, Antonio? Non è il confessionale questo qua. No, non è un confessionale. Mi sarebbe piaciuto dialogare con il senatore Castelli. Il senatore Castelli però era ospite ieri. Lo so. Ho capito. Lo so. Noi abbiamo un primato a Bergamo e a Brescia. Sì, qual è? Abbiamo due presidenti della provincia, sì, che sono deputati. Sì. E quello di Brescia ha un altro primato, sì, e anche sottosegretario. Molto male questo qua, Antonio, molto male. Direi molto male, malissimo. Molto male. Soprattutto quando noi della Lega siamo un partito di lotta, ma poi vediamo che invece... Un partito di poltrone. Un partito di governo di poltrone. Il codice Cencelli ha messo il turbo. Però questo succede ogni volta che la Lega va al governo, le faccio notare, non è una cosa nuova questa. Ogni volta c'è lo stesso argomento. La Lega è di lotta e anche di poltrone. Vabbè, d'accordo, però insomma non ci possiamo limitare solo a questo tipo di analisi, no? O no? No, adesso le dico un'altra cosa. Ieri si parlava del cerchio magico di Bossi. Sì. Che ci è stato confermato dal senatore Castelli. Esiste, esiste. Anche da chi è composto. Me lo dica lei, Antonio. Allora, onorevole Giorgetti, sì, segretario federale, sì, Calderoli, che secondo me è la mente pensante della Lega, il vero ideologo della Lega. E del cerchio magico. Ha un'immagine un po' ancora ancorata alle sue battute del passato, ma chi ci parla insieme capisce che Calderoli è una persona. Allora, Giorgetti Calderoli, dunque, l'ascoltatore da Bergamo, Antonio, militante o ex, non lo so, della Lega. Non sono militante, ma ho votato Lega e fatto votare Lega. Vabbè, comunque, allora lei come fa a conoscere chi compone questo cerchio magico? Perché ho avuto a che fare politicamente, ho parlato anche più volte con Umberto Bossi. Allora, Giorgetti Calderoli, poi? Sì. Reguzzoni è in crescita assolutamente all'interno del movimento. Poi? Maroni. Sì. No, Maroni non fa parte del cerchio magico. Antonio, lei allora non le sa le cose. Su. No, come no. Beh, Maroni non fa parte. Renzo Bossi abbiamo detto che è un fuori quota. Giusto? Vabbè, ma Renzo Bossi per forza fa parte del... Sì. Senatore Bricolo. Bricolo, vabbè, d'accordo. Però, bravo. Antonio, lei ha sbagliato con Maroni, ormai è eliminato. Ah, è male informato. È male informato, eliminato. Un'altra cosa. Il ministro Tremonti che c'è? Fa parte è più Lega che PDL. Questo lo sanno tutti. Vabbè, Antonio, questo però non mi sta raccontando il terzo segreto di Fatima. Abbia pazienza. Io ho telefonato perché sono un leghista pentito. Ma questo me l'ha detto già, Antonio. Ma sono problemi suoi. Vada a confessionale o ci spiega perché. No, io penso che Gianfranco Viglio si rotoli nella tomba. Vabbè, basta adesso queste citazioni di Miglio, Antonio. Vabbè, comunque la ringrazio. Beh, io sono stato un suo allievo, grazie. Va bene, buonasera. Grazie. Roberto da Torino, buonasera. Buonasera. Dica. Senta, io mi rifaccio un po' anche a quello che diceva prima Urso a proposito della trasmissione di satira. Premetto che sono d'accordissimo sul fatto che tutti abbiano ovviamente la possibilità di parlare, di esprimere la propria opinione, va benone. Quello che vorrei però rimarcare è che non mi sembra il caso, in un periodo di imbarbarimento come questo della società e della politica, non mi sembra il caso di lasciare tanto spazio, soprattutto di farli vedere come se fossero personaggi simpatici a soggetti tipo Scilipoti, per esempio. E che dovremmo fare, scusi Roberto? No, mi dia un consiglio lei, perché... No, per carità, lei siete bravissimi a condurre questa cosa. La mia preoccupazione però è che, siccome io non sono d'accordo con Parente, secondo me la gente... Gente che ragiona non ce n'è moltissimo in giro. La mia preoccupazione è che persone come Scilipoti alla fine possono diventare quasi dei modelli. Cioè, secondo me bisognerebbe... Mi pare piuttosto difficile, insomma. Ma no, ma non perché io dia qualche definizione particolare di Scilipoti, perché insomma... Non direi nemmeno il modello non è Scilipoti. Insomma, voglio dire, di che stiamo parlando, Roberto? Non l'ho capito ancora. Ma molto semplice, stiamo parlando del fatto che, per esempio, oggi sono d'accordo con lei che avrà pochissima possibilità di andare in porto, però si sta mettendo in dubbio l'articolo 1 della Costituzione. Sì. Si sta dicendo che dovrebbe diventare sovrano il Parlamento su tutto. Sì. Ovviamente sono discorsi che ci metteranno degli anni se va bene andare avanti, però sta di fatto che molta gente è già catalizzata su questo bah, discorso. Non penso anche qui, come nel caso dei fascio-comunisti, che gli amici autotrasportatori che ci ascoltano e soprattutto i tantissimi tassisti che ci stanno ascoltando si stanno dibattendo da questa mattina sulla proposta dell'onorevole Ceroni. Adesso, francamente, l'ho detto con tutto rispetto, credo che non stiamo a ragionare da stamattina. Non mi sono svegliato, oddio, possono modificare l'articolo 1 della Costituzione. No, certo, però se non sbaglio, dopo lei avrà come ospite... Ma sì, perché è comunque un protagonista di questi giorni. Il personaggio della giornata. Quindi, ma è giusto, giustissimo, infatti, dico, è giustissimo, però sta di fatto che lui ha detto una cosa di cui si parla e di conseguenza è una cosa di cui... Sì, ma non è una cosa di... Adesso andiamo... Ma non diciamo che è una roba di una gravità. No, per carità, non sto parlando della gravità della proposta, perché secondo me è completamente è impossibile arrivarci, però il fatto che si voglia mettere il Parlamento sopra il popolo, il fatto che si voglia mettere sopra il popolo è difficile, il fatto di sapere che... Scusi? No, sopra il popolo mi pare difficile, il Parlamento è eletto dal popolo, almeno allo stesso livello, insomma, è espressione del popolo. Il Parlamento adesso è nominato dai segretari. Ma questo è un altro discorso che riguarda la legge elettorale. Roberto, devo dare la linea ad altri ascoltatori, grazie. Antonio dalla provincia di Roma. Sì, buonasera. Dica. Volevo dire su Pennacchi, sì, che chi lo vede oggi per la prima volta forse può pensare che recita un personaggio sulla scia del successo del libro che ha vinto il Premio Strega. Io ho avuto modo di seguirlo un po' da oltre 15 anni, sì, leggendo i suoi libri o assistendo alle sue conferenze, sia quelle dove veniva invitato... Abbassi la radio, grazie. Dove assisteva e poi interveniva, quindi lui le conferenze comunque, se andava, interveniva comunque, sia se stava al di qua o al di là della cattedra. E credo sia proprio così, cioè non reciti un personaggio, ma sia realmente così. Non ho mai detto che sta recitando qualcosa, assolutamente, è se stesso. Mi mettevo nei panni di chi lo sentiva per la prima volta, perché può sembrare una specie di sgarbi. Invece questa specie di sgarbi lo fa già da 20 anni. Invece credo che gli vadano riconosciuti alcuni meriti che forse non sono molto noti. Lui ha scritto vari libri. Quello che è più citato è questo Fascio Comunista, che a me anche un po' annoiato. Vabbè, questo ne ha scritto un altro. Non mi pare un tema di discussione, Antonio. No, invece ne ha fatto un altro, sì, bellissimo. Si chiama Il Fascio e Martello, Viaggio per le città del Duce. Sì. Dove, parlando sempre dei soliti argomenti del ventennio, ha raccontato che le città costruite dal fascismo non sono le solite 4 o 5 che conosciamo, Latina, sì, Sabaudi, Aprilia, eccetera, eccetera, ma addirittura 147, che mi sembra una grande novità. Vabbè, quindi... Antonio, anche qui, per carità, va benissimo, lei ci sta dicendo qual è nella produzione letteraria di Pennacchi il libro che l'ha affascinata di più. Benissimo. Antonio, la ringrazio. 800 24 00 24, è con noi Remigio Ceroni. Buonasera. Buonasera. Come sta? Che bella accento. Sta bene, grazie. Un saluto a voi e agli ascoltatori di Radio 24, che anch'io sento molte volte. Beh, in particolare alla Zanzara, voglio sperare, no? in particolare la Zanzara. Va bene. Sento i confronti, i dibattiti che ci sono. No, sto scherzando, tutta Radio 24, tutta Radio 24. Senta, bravo Remigio, bravo Remigio. A parte, grazie. Le voglio subito chiedere di questo Remigio, il nome o il cognome? Di questo nome che non sentivo da decenni addirittura. Intanto mi complimento per il suo accento marchigiano, verace, grazie. Forte, tosto. Grazie. Autentico. Autentico, sì, scusi, tosto forse è eccessivo, insomma. Autentico. Remigio, da dove viene Remigio? Io abito in provincia di Fermo, in un comune che si chiama Rapagnano. Ed è di cui è anche sindaco? Di cui anche sono sindaco, sì. Per quattro volte, poi adesso vediamo se il 15 maggio sarò rieletto. Una sorta, una sorta di dittatura remigiana. No, per carità, ci mancherebbe. È una burocrazia remigiana, no? Un sentimento di rispetto e di riconoscenza che ho verso i miei cittadini che mi hanno aiutato in ogni modo per i miei successi elettorali. E lei, per essere riconoscente, si installa lì da sindaco e non si smuove più per decenni, insomma. No, sto scherzando, naturalmente. No, per carità. Senta, convenevoli a parte, sacrificio, ma sentimento di riconoscenza. Ma scusa, che c'entri convenevoli adesso, Parenzo? Volevo dire, sì. Siccome siamo partiti, Remigio, nome bellissimo, bravo, simpatico. No, da dove viene questo Remigio? Io sono curioso. Ormai di questa vicenda dell'articolo 1 ne hanno parlato tutti. Aspetta sì, un attimo. Senso no, non ne parliamo perché gli voglio chiedere dell'origine. È giusto, tu inviti il protagonista della giornata politica per chiedergli l'origine del nome, ma è giusto che sia così. È la Zanzara 800 24 0224, è giusto? No, io non voglio chiedere solo l'origine del nome, però mi ha colpito il fatto che era da tempo immemorabile che non sentivo il nome Remigio. In realtà non è mia questa qua, è una cosa che mi ha suggerito di chiedere all'onorevole Ceroni un'amica. Mio nonno si chiamava così, per cui sì, ma che vuol dire Remigio? Il primo figlio maschio che ha avuto mio padre ha ricevuto questo, ha deciso di mettergli il nome di Remigio, che è una cosa molto comune tra gli italiani. Sono un nome che sono, del quale sono orgoglioso, insomma, portare Remigio nonno è una bella cosa, una bella abitudine. Andiamo a cercare su internet che significa. Comunque, al di là di questo, onorevole, diamo alle agenzie subito questa notizia. Io dico che sei una cosa pazzesca tu, però No, capito, che cos'è la oclocrazia? Cioè io da stamattina che mi sto scervellando su questo termine, onorevole Ceroni, la oclocrazia. Lei ha portato nel lessico politico italiano una nuova parola. Abbiamo assistito alle performance dell'onorevole Scilipoti, il quale è lo Ying, lo Yang, l'agopuntura, eccetera, eccetera. Adesso abbiamo l'oclocrazia. Cosa vuol dire? Cioè, lei è un sostenitore dell'oclocrazia? Ma è una definizione che mi è piaciuta, sfogliando il vocabolario, per definire lo stato del nostro sistema politico, insomma, attuale o quello che fa riferimento alla sua proposta? Beh, se non interveniamo si finirà come viene indicato dal vocabolario, cioè in un sistema come questo, insomma. Cioè, come questo, quale? L'oclocrazia, lo dica pure lei, perché lo dico io, oclocrazia, lei come lo dice? Oclocrazia. Ma è un sistema in cui masse erette fittiziamente governano il paese senza avere i titoli per farlo, insomma. E chi sarebbero? Andiamo ad applicarla alla situazione attuale. Quali sarebbero le masse erette? No, elette, no, erette. Erette, senza alcun consenso popolare. Bene. E dunque chi sarebbero, per esempio? Ma è evidente che il Parlamento e il Governo sono sotto schiaffo di altri poteri costituzionali. In questo momento, allora, no? Sì, allora serve un riequilibrio dei poteri, perché credo che in una democrazia la sovranità deve essere popolare. Sì. Invece qui si vuole che il popolo non conti nulla, elegga i propri rappresentanti, ma questi non sono in grado di decidere alcunché. Questo è il dato di fatto, no? Cioè, scusi, c'è una dittatura, oggi lei sta dicendo che non siamo in una democrazia. Siamo in una democrazia, ma che funziona male perché i meccanismi sono inceppati, perché una democrazia funziona anche sull'equilibrio dei poteri, quindi pare che i poteri si siano tutti... Ma lei adesso, non voglio offendere, ma mi sembra un discorso alla Sorrosa, giusto? Diciamo, preso da un altro punto di vista... Non so cosa dice, non sono un lettore delle tesi a Sorrosa, quindi... No, però... Magari se dice questo... Anche a Sorrosa dice che non siamo in democrazia, che c'è una sorta di... Certo, lo dice da un altro punto di vista, però dice più o meno la stessa cosa. È bizzarra questo... Beh, no? Per me, secondo me, la democrazia si basa sul popolo sovrano, cioè i rappresentanti del popolo debbono fare le scelte che servono. D'altronde credo che girando... E dunque sopra il Parlamento non ci può essere nient'altro, questo è il succo della sua proposta. Chiedo scusa, ma perché dire, se il popolo conta qualche cosa, i suoi rappresentanti debbono poter lavorare, prendere decisioni e fare scelte che sono per il bene del paese. Ma a che serve modificare l'articolo 1 della Costituzione? Cioè concretamente a che serve? Per esempio, faccio un esempio concreto. Molto semplice, la Costituzione italiana è una Costituzione parlamentare, in quanto in più articoli il Parlamento è la massima espressione del paese, nomina il Presidente della Repubblica, elegge un terzo dei membri del CSM e della Corte Costituzionale, autorizza il governo a scendere. Va bene, d'accordo, ma se si cambia la Costituzione nella direzione da lei voluta, cosa cambia concretamente? In tutti gli articoli non c'è nessun richiamo alla centralità del Parlamento, quindi allora non serve a niente, scusi. Come questo, beh, credo un richiamo nei principi sarebbe utile per tutti, richiamerebbe le varie istituzioni, i vari organi ad essere più attenti a... Dunque non serve a niente cambiare la Costituzione, cioè... Ma sai, come tutte le norme poi vengono interpretate, la prassi che determina l'attuazione pratica di una norma. Ma io chiedo scusa, ma dissento radicalmente da questa analisi che ha fatto l'onorevole, e lo spiego in 30 secondi. Il Parlamento è talmente centrale che, come l'onorevole sa, i governi nascono e muoiono in Parlamento. È talmente centrale il Parlamento che un certo onorevole Scili Poti, detto Mimmo, detto da noi Scili, è passato legittimamente dall'Italia dei Valori a sostenere il governo e ha, da responsabile, come lui dice, o da disponibile, come dice qualcun altro, sostenuto Berlusconi. Cioè tu dici il Parlamento è già al centro di tutto. Il Parlamento è centrale più che mai, ma dov'è che non è centrale il Parlamento? Ma che cosa... Mi domando, come mai però voi siete così bravi a sottolineare che Scili Poti, eletto in una lista, è passato in un'altra, e non sottolineate che più di 30 parlamentari sono stati eletti... No, ma diciamo anche quello. Ma tutto, certo, ma la centralità del Parlamento hanno cambiato atteggiamento durante il corso della legislatura e nessuno dice niente. No, ma diciamo anche quello. Della patria, perché operano per far cadere il governo, mentre chi attua... Che è la patria? Che cos'è la patria? Scusi, non ho capito bene la patria. Ho detto per il bene della patria, per il bene dell'Italia, del paese. Sì, ecco. Sì. No, ma hai capito che il Parlamento è centrale, perché se i governi nascono e muoiono in Parlamento, legittimamente qualcuno ha scelto di appoggiare questa maggioranza. Quindi dov'è il problema? Centrale, dov'è? Che cosa impedisce allora di fare un richiamo solenne a questo principio, la centralità del Perché Parlamento? Qualcuno dice in questo modo... solo per bloccare la magistratura, è evidente, dai... Oppure per togliere poteri al Presidente della Repubblica. Così. Perché nessun altro articolo viene modificato, viene solo inserito un principio che è latente, invece viene richiamato in maniera assoluta. Non mi pare, cioè, io credo invece che la sinistra ogni giorno cerchi di strumentalizzare, non avendo più argomenti, qualunque dichiarazione per farne un caso. Io certamente non pensavo... Ma chi gliela suggerito? Farina del suo sacco, gliela suggerita qualcuno questa proposta, non è Voceroni? No, assolutamente. Nessuno. Berlusconi non ci ha mai parlato. Sono 5 anni che sono in Parlamento, sono, come sapete, tra i più presenti, per cui mi dispiace 99%, 99 sì, è oltre per cento, per cui mi dispiace vedere il Parlamento funzionare in questa maniera, mentre dall'altra parte c'è il Paese che ha bisogno di... Senta una cosa, ma Berlusconi stamattina si è sentito con Berlusconi? No, assolutamente, assolutamente no. Il Presidente ha mille cose da pensare, che guardare una proposta di legge di un umile deputato marchigiano. Allora, onorevole Ceroni, la pubblicità, poi torno subito con lei. 800 24 00 24. In realtà questa cosa dell'oclocrazia ancora non l'ho capita, perché lei ha detto vi salvo dall'oclocrazia, non so nemmeno pronunciarla. In realtà l'oclocrazia è una forma di governo in cui le decisioni sono prese dalle masse, cioè che è quello che in realtà vuole fare lei. Dunque lei vuole imporre l'oclocrazia, o sbaglio? No, assolutamente. E beh, come no? Il regime delle le decisioni prese dalle masse, cioè dal Parlamento. Le masse che votano il Parlamento. Vabbè, c'è una confusione su questo termine, a dopo. Siamo qui alle 19, anzi alle 20 ormai, 800 24 00 24. Siamo con Davide Parenzo, come al solito in collegamento da Roma. Credo in collegamento da Roma anche l'onorevole Remigio Ceroni, marchigiano, primo firmatario della proposta di legge. Unico. Ecco, Berlusconi. Chissà perché. Lei dice ho fatto tutto da solo. Ora, Berlusconi le ha detto, siccome oggi ha avuto un colloquio, pare, col Domenico Scilipoti, almeno così risulta, non ti alzare dalla sedia, Parenzo. No, figuriamoci. Io spero sempre della fuga dei cervelli, invece. Ha avuto un colloquio con Scilipoti, da cui è uscita fuori una critica, così è un autogol, non ci possono essere proposte dei singoli. Lei ci deve fare un annuncio qui, onorevole Ceroni. Sì. Ritiro questa proposta di legge. Ma per intanto facciamola stampare, facciamola pubblicare, poi decideremo il da farsi. Per intanto però mi piacerebbe far riflettere. Ma guarda che per me la può presentare, non lo dico perché sono contrario, cioè no, per me è inutile, però. Mi piacerebbe far riflettere gli ascoltatori su un altro su che tema. Cosa? Cioè, io credo che sia legittimo, rientri nelle prerogative di un deputato, presentare una proposta di legge, può certo, anche non certo. essere condivisa, no? Certo, assolutamente, tutte assolutamente. Le proposte di legge sì. che sono giacenti in Parlamento. Assolutamente. Ma si possono anche ritirare dopo per motivi politici. L'immensa, il livore, le espressioni usate, per esempio attentato alla Costituzione, che sono state usate contro questa proposta di legge, secondo me è un tentativo di intimidire e di così minare le prerogative del parlamentare. Perché per esempio su questo non dite nulla? No, lo dico che su questo, sulle reazioni che ci sono state ad una cosa che resta a mio parere assolutamente inutile e marginale, ma non lo dico perché lei è inutile e marginale, dico la proposta, non è una cosa personale. Un'idea per far funzionare meglio. Vabbè, questo lo dice lei naturalmente. Per essere approvata ha bisogno di almeno 316 voti, quindi ci sono migliaia di proposte che non saranno mai esaminate mai approvate. Per carità. Che male c'è a presentare? No, ma infatti voglio dire, non è né eversiva né un attentato alla Costituzione nella maniera più assoluta. Si innescano qualche volta. Un modesto punto di vista che può essere sbagliato, per carità, io non sono dotato dell'infallibilità. Ho pensato che la ritira o no? Ma perché dovrei ritirarla? E che ne so, magari glielo chiede Berlusconi, magari gliel'ha chiesto. Guardi, intanto devo dire che ho ricevuto un migliaio di mail, devo dire che il 97% sono di apprezzamento, salvo un po' di anonimi che sai come sempre non mancano mai. Ma ci sono persone che anzi hanno voluto chiarire, dice aggiunga queste cose, mi pare una proposta sensata, in questo paese il popolo non conta nulla, eleggiamo i rappresentanti, ma poi il Parlamento è impantanato in chiacchiere, in estenuanti ostruzionismi. Ho capito, ma non è che ci vuole cambiare la Costituzione, non è che serve cambiare la Costituzione per cambiare questo tipo di mentalità, magari serve diminuire il numero di parlamentari. Ceroni, magari bisognerebbe diminuire il numero di parlamentari, togliere il Senato o riformarlo, su. Ho capito, però lei ha fatto un'altra proposta, non è che... Ce n'era una addirittura che era diventata legge, che prevedeva la riduzione dei parlamentari, ma mi pare che nel referendum che si è tenuto l'anno successivo è stata impallinata, ma il popolo è sovrano, è il popolo che deve decidere. Ho capito, però siete anche voi che fate le proposte. Il problema è molto più serio, cioè il problema è che, questo le voglio chiedere, guardi, come ci si sente nel presentare proposte di legge che non verranno mai votate? C'è già tanto casino in Parlamento, fate una, poi firmata solo da lei per giunta, ma questo no è sostanziale di quanto poi si rallenta il lavoro delle camere, non si rallenta perché il calendario dei lavori viene fissato alla conferenza di capigruppo, per cui ci sono proposte che sono presentate e poi non vengono assolutamente discusse né magari il deputato, ma presentate cose più fattibili, no? Quella del direttorissimo ha detto prima, diminuzione del numero dei parlamentari, fate questa che è utile, è utilissima, fatela, la scriva oggi. Io sono tra quelli che presenta molte proposte, sono a disposizione, partecipo ai lavori della commissione, partecipo ai lavori dell'aula e non faccio mai un numero esagerato, anzi, direi che cerco di farne. Senta, Ceroni, voglio capire una cosa. Berlusconi le ha chiesto di ritirare questo disegno di legge? No, ancora no, non ci ha parlato. Non ho parlato con nessuno né prima né dopo. Quindi, se lui lo dicesse, lei lo ritirerebbe? Sono un parlamentare del PDL, rispetto le indicazioni che vengono date dal partito. Quindi, se mi venisse chiesta questa cosa, non esiterei un momento a ritirarla. Ma lei è stata una Democrazia Cristiana del passato, no? O sbaglio? Sì, quando ero ragazzo ho incominciato ad appassionarmi alla politica nel 1972. E quando è che si è appassionato di Berlusconi? Nel 1994. Ah, lei è berlusconiano della prima ora? Sì, ho aderito subito perché mi piaceva questa idea di rinnovamento, di cambiamento. Con chi sta? Con Galan o con Tremonti? Con Galan o con Tremonti? Con Galan o con Tremonti? Guarda, non mi appassiono alle dispute interne che poi spesse volte sono solo giornalistiche, perché magari le due persone oggi c'è una spaccatura. Amiche, si confrontano in maniera seria e corretta, poi magari una frase viene riportata dai giornali e diventa, no, veramente come in questo caso è giornale, caso, un'intervista. Comunque, no, non c'ero, quindi non mi fido dei racconti che vengono fatti. Ma scusi, è un'intervista pubblicata dal giornale che non è l'Unità, a un ministro del governo Berlusconi, il quale dice che il ministro dell'economia è un socialista che ci fa perdere le elezioni e che non è capace di far crescere il paese. Se mi pronunciassi, se l'aveva letta, non l'ha letta, benissimo, qualcuno sulla proposta di riforma costituzionale rischierei di fare brutta figura. Assolutamente. Senta, Napolitano le piace come Presidente della Repubblica? Ma io l'ho votato, lo stimo, però qualche sua ingerenza l'avrei evitata, insomma. Per esempio anche questa sui manifesti delle BR, una ingerenza eccessiva? No, ma quella è una stupidaggine che è stata già sanzionata. Io dico, quando il Parlamento discute di una legge, gli altri poteri debbono astenersi perché il Parlamento possa decidere liberamente, in maniera positiva, in maniera negativa, un provvedimento. Senza. Dunque Napolitano interviene troppo nel dibattito quotidiano. Ma non è che posso io dettare quello che devi fare al Presidente. No, è un suo parere sull'attività. Qualche volta avrei gradito che non fossero filtrati opinioni e punti di vista, perché questi finiscono indubbiamente, essendo autorevole la persona che si espone, per condizionare il dibattito politico. Senta, ma Berlusconi come ce lo vede al Quirinale lei? Benissimo, Berlusconi è un fuoriclasse, è capace di fare tutto. Anche il capo dello Stato, una volta Feltri ha detto che bisognerebbe rincorrere poi le donne all'interno dei palazzi del Quirinale, sarebbe una cosa drammatica, insomma. Va bene, Pino, di Feltri sono le sue, non le faccio certamente mie. No, per carità, insomma, lei se lo vede, però se lo immagina, diciamo, arcore trasferito al Quirinale. Credo che abbia dato molto a questo paese, prima da imprenditore e poi da Presidente del Consiglio. Per cui dunque, può fare benissimo. La mia stima qualunque e fiducia cosa. Può fare benissimo anche il Presidente della Repubblica. Benissimo. C'è dell'amore, del grande amore. Beh, innamoramento politico è una cosa normale. Mia moglie si chiama Silvia, mio suocero che adesso è morto si chiamava Silvio. E quindi è un nome così familiare che amo particolarmente. Beh, questo è straordinario. Questo è bellissimo, questo è molto bello. Poi c'è Leopardi, che è il marchigiano, un poeta che dedicò una canzone a Silvia, una poesia a Silvia. E lei la conosce questa poesia a Silvia che dedicò a Leopardi? L'ho letta. A Silvia, vediamo un po', ripeschiamola subito. Ce la declami, cioè, lei dice, rimembri ancora. Lei dice, esatto, che esatto. Lei dice che forza, no, esatto, avanti, oltre, forza. No, andiamo oltre, come non recito le poesie da quando andavo alle scuole elementari, quindi no, certo, però voglio dire, lei dice il nome Silvio. Lei dice il nome Silvio è praticamente nel mio destino, questo sta dicendo, no? Mi è particolarmente familiare e caro. Certo, perché c'è sua moglie. Il mio suocero che adesso è morto, però si chiamava Silvio, quindi nel mio cuore è un nome che mi emoziona e mi illumina. E dunque anche Berlusconi la emoziona e la illumina, immagino. Il Presidente è davvero una persona straordinaria. Certo. A Silvia di Leopardi. Leopardi a Silvia. Silvia, rimembri ancora quel tempo? No, Silvio. Silvio. Silvio, della tua vita. Non saprei ricordarla, Silvio, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale? Quando egli, no, quello no, la tua vita mortale sembra che sia morto. Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendeva nei tuoi occhi, ridenti quando e fuggitivi. Ridenti è meraviglioso, ridenti e fuggitivi. E tu, lieta e pensosa. Onorevole, cosa vuol dire gli occhi ridenti e fuggitivi? Cioè, cosa c'è dentro questa bellissima densità di perché gli occhi? Una dichiarazione d'amore. Ma perché gli occhi erano ridenti e fuggitivi? Cioè, per esempio, anche secondo lei Berlusconi è un bell'uomo, come ci hanno detto molti esponenti del PD? Questo giudizio lo lasciamo alle donne, no? Lasciamolo alle donne, sì. Però è affascinato, il fascino ce l'ha, il fascino ce l'ha. Non saprei giudicare, potrei dire se una donna è affascinante, ma non un uomo. Non un uomo, eh. Comunque, suonavano le quiete stanze, le vie d'intorno al tuo perpetuo canto, allor che all'opere femminili intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenir che in mente avevi. Vabbè, mi pare insomma che ci siamo divertiti abbastanza, che abbiamo esaurito assolutamente il nostro tempo. Io sto arrivando, perché nel frattempo che parlavo con voi guidavo in macchina. Dove stavo andando? Sto andando a un incontro, perché ci sono le elezioni amministrative, certo, le Marche riguardano alcuni comuni. Ceroni, quando ha deciso di ritirare questa proposta di legge, per carità, la può anche mantenere, non è obbligatorio, lo faccia sapere, lo annunci urbi et orbi, come si dice in gergo. Ma non avrò alcun problema a fare questa comunicazione. Intanto adesso voglio, sì, che vuole fare? Godermi la Pasqua, recuperare, sì, quello tutti, quello tutti. Bravo, essere in dato, questo impegno legislativo. La stessa cosa, perché credo, certo, che la Pasqua sia un momento importante. Auguri a tutti gli italiani da parte dell'onorevole Ceroni per la buona Pasqua. Grazie, anche bello. A voi, anche voi auguri. Assolutamente, dopo questo impegno, dopo quello che è successo in questi giorni, la presentazione di questo disegno di legge. Devo dire che non sono abituato ai riflettori alle pressioni di questi giorni, perché, certo, non pensavo proprio di aver scatenato la terza guerra mondiale. Lei è un avevo cosiddetto peone, no? Avevo pensato che questa poteva essere utile, sì, almeno essere esaminata, discussa, poi magari non è la forma giusta di riforma, però è un voler dire, sì, dare, certo, una piccola opinione. Comunque lei si definisce un peone? Ma io sono l'ultimo parlamentare della Camera, assolutamente. Non ho un peone. Comunque remigio deriva dal latino remigius, cioè remare, oppure sempre dal latino remedium, che significa rimedio medicamentoso. Ecco, si può allora dire la proposta di legge voleva essere un rimedio allo stallo delle istituzioni italiane. Come il mio omen nomen. Benissimo. Grazie, si riposi. Grazie, buonasera. Si riposi. Ciao, si riposi. Tanto, 20 e 12, vediamo. Pubblicità. Salute. Hai capito, caro Parenzo? Io ho capito perché. Che è successo? È caduto Parenzo come al solito? Dov'è? Dove si trova? Che disastro. Laura da Roma, buonasera. Buonasera. Dica. Mi dispiace che non c'è Parenzo. Adesso torna, non si preoccupi. Va bene, senta, io non mi ricordo, non so chi me l'ha fatto fare di chiamare. Comunque. Non lo so, me lo dica lei, cara signora Laura, per carità, non la voglio mettere in croce. Infatti ho terrore che lei mi aggredisca. No, ma sono qui, sono una persona molto tranquilla, molto serena. Sono stata stimolata ieri sera dal, sì, fatto che lei ha detto che Pennacchi non dice cose ragionevoli. Beh, insomma, abbia pazienza, le cose che ho sentito mi sembrano delle cose, adesso non so come definirle. Ho sentito che poi vanno pure quelle contestualizzate, come giustamente diceva Parenzo. Ma non c'è da contestualizzare nulla in quel caso, cioè è uno sfogo, sì, alla Grillo da parte di una persona, no, rispettabilissima. Guardi, non lo paragonate a Grillo. Ma come no? Io lo paragono e come? Anche la signora che ha telefonato prima, perché non c'entra assolutamente niente con Grillo. Ma no, ma il modo, non sto dicendo che è simile a Grillo dal punto di vista, diciamo, della formazione culturale. È evidente che non è così, anche per la differenza di età, però non mi sembra, non mi sembrano sfoghi simili dal punto di vista mediatico, ecco. È probabile. Comunque io semplicemente vorrei chiederle, ma lei ha letto un libro di Pennacchi? No, guardi, ho iniziato a leggere Canale Mussolini, ma poi dopo un po' l'ho lasciato e adesso lo riprenderò. Ma questo che c'entra, scusi? I libri non c'entrano niente. No, c'entra perché siccome lei ne parla molto, ero curiosa di sapere. Per esempio c'era un signore che prima consigliava un altro libro e lei gli ha detto, vabbè, ci ha detto il libro che ti piace, grazie tante e buonasera. No, ho capito, signora Laura, però non è che bisogna... Quando Pennacchi parla di politica e si presenta come ispiratore di una lista, io non sono obbligato a conoscere i libri che ha scritto Pennacchi, che peraltro sono dei romanzi, abbia pazienza. Però se lei ne parla, quantomeno un po' lo deve conoscere il personaggio per capire quale motivo dice certe cose. No, io lo ascolto, non sono tenuto per parlare, non è che per parlare di Pennacchi uno deve aver letto i libri che scrive Pennacchi, che sono romanzi, abbia pazienza Laura. Guardi, per parlare di Pennacchi politico, certo, per parlare di Pennacchi scrittore sì, ovviamente. Va bene, però se lo vuole conoscere bene lo deve approfondire allora scusi un attimo, prima di parlare un'altra volta di Pennacchi, leggo tutta la bibliografia sterminata di Pennacchi. Ma perché deve sempre esagerare? Non sto esagerando, lei dice io non posso dire delle cose di Pennacchi. Che lei ha detto, non comunque c'è Parenzo, c'è Parenzo. Se posso è tornato Parenzo, dico. Saluto. Mi fa piacere perché Parenzo è veramente grandioso. È più tollerante di me, sì. No, è proprio intelligente Parenzo, ma tantissimo. È un gran signore. Il gran signore non so se gli fa piacere a Parenzo, comunque vabbè. Non gli fa piacere, io lo vedo così. Sto scherzando. Mi piace molto, è una persona brillante, una persona. L'ha visto ieri sera Exit, signora Laura? No, purtroppo non ho avuto la possibilità. Torno subito con lei, non ci lasci nella maniera più assoluta, perché tanti complimenti a Parenzo tutti insieme non l'avevo mai sentiti, e andiamo a sentire cosa succede sulle strade italiane. Come si dice traffico? Tu dirai alle 20:17, sì, c'è un sacco di gente che ancora ci sente. È fondamentale il traffico, c'è tutta la gente, 10 km di coda c'erano verso Venezia, in quella terribile strada, quindi manda il traffico perché la gente ha bisogno di sapere. La borsa basta, solo il traffico. No, alle 20:30 purtroppo c'è anche la borsa, però. Siamo qui 800 24 00 24. Io sono rimasto colpito, caro Parenzo, veramente dall'articolo che ha scritto oggi il nostro comune amico Luca Telese sul Fatto letto, Quotidiano, sì. a pagina 22. Fatto un pezzo orrendo, molto bello, un pezzo terrificante. Pagina 22 di un giornale che io leggo peraltro ogni giorno, ed è uno dei primi giornali che leggo, questo lo voglio dire a scanso di equivoci, a tutti gli amici del Fatto. È una persona intelligente. Il drago rovina le vergini, questo è il titolo, il drago rovina le vergini. Noemi Letizia, ex puppy girl, presenta una linea di costumi, appare in pubblico nuovamente ritoccata e fuori forma, e qui si fa riferimento a delle foto significative che il settimanale Oggi ha pubblicato questa settimana. Stessa fine di altre colleghe della corte del sultano, a parte l'utilizzazione della parola sultano, eccetera, eccetera. Questo qua però è il riassunto. Scrive. Ma non capito, la parola sultano la usa il professor Sartori, va bene? La usano gli amici del Fatto? No, chiede. Io, Sartori, editorialista del Corriere della Sera. Per me non va bene comunque, ma lasciamo perdere. Poi. Se c'è una prova di plagio e di abuso di potere del Presidente del Consiglio da portare ai tribunali, è questa. Dunque, secondo Telese, è un pezzo naturalmente un po' ironico, però non del tutto. Perché, secondo Telese, le foto di Noemi Letizia pubblicate da Oggi sono una notizia criminis inviata a mezzo bisturi. Molto bravo a scrivere, per carità, Telese, però poi alla fine il ragionamento è questo, ed è quello che vi espongo, che vi sto per esporre. Berlusconi è colpevole di distruggere i corpi delle donne ed è in flagranza di reato. Colpevole di plasmare le donne secondo il proprio capriccio, di usarle non solo come oggetto di soddisfazione personale, ma come strumento di rappresentazione del proprio potere. Tutto questo perché la signora Noemi Letizia, facendosi gli affari suoi, decidendo in totale autonomia, ha deciso, come fanno tantissime donne, di ritoccarsi il corpo. Una cosa che non è un reato, mi sembra, che però il nostro amico Telese attribuisce a Berlusconi. Cioè Berlusconi è all'origine del fatto che Noemi Letizia, secondo Luca Telese, è diventata orribile, si è ritoccata tutta. Hai capito qual è il discorso? Sì, è un discorso molto serio da un punto di vista anche sociologico, no? Per analizzare il fenomeno, perché c'è un tratto comune a queste ragazze, alle cosiddette olgettine, cioè sono tutte ragazze che vengono proletarie, diremmo, usando un gergo antico, sono ragazze che vengono dalla periferia dell'impero, sono ragazze che dalla periferia dell'impero sono arrivate nella capitale, a Roma urbe, oppure nella Milano di Silvio Berlusconi. Ecco, in tutto questo racconto, questo sottotesto della biografia delle ragazze andrebbe analizzato e studiato. Ho capito, ma stiamo parlando, ma stai facendo un trattato di non so che cosa. Drago rovina le vergini, cioè secondo Telese Berlusconi avrebbe rovinato Noemi Letizia, se poi l'ha rovinata, perché magari lei non si sente rovinata manco per niente. Cioè, allora, che molte donne si rifacciano il seno, le labbra, perché si sentono Ma è una cosa di un fascismo pazzesco, è una cosa una cosa talebana. Telese è un talebano, questa è la realtà. Telese come Mullah Omar, questo è il punto. Ha tratteggiato, come dire, questa modernità che viviamo, no? È impersonificata da Berlusconi, che in questo, guarda caso, molte di queste donne si sono, come dire, che hai fatto? Una statistica tra le donne che frequentano Berlusconi, che sono tutte ritoccate? Statistica? L'hanno scritto i giornali, non siamo mica gli unici che ne parlano di questa, ma lo ammettono molte di loro. Vabbè. È una caratteristica comune, la paura di invecchiare, la televisione, il lifting, il rifarsi, il rigonfiarsi, è un po' questa roba qua. Vabbè, che uno si può rifare tutte le tette che vuole, non è un reato, e sicuramente Berlusconi non è che le ha puntato la pistola dicendo rifatti il seno. Ho capito, il drago rovina le vergini, questo è il titolo, e Berlusconi è colpevole culturale di distruggere i corpi delle donne. Ma quale provocazione, su? Provocazione culturale. È una cosa assurda, però analizziamo chi sono queste ragazze, da dove vengono. Ma che analizziamo? Basta. L'idea del denaro. C'è la signora, sentiamo cosa ne pensa la signora Laura. Perché ti fa schifo il denaro e il successo? Non che adesso ti fa schifo il denaro e il successo? Non mi far parzare. No, anzi, mi piace moltissimo. E allora che vuoi? Ti piace moltissimo, però sociale, alle olgettine no. Alle olgettine va proibito il denaro e il successo. E anche di farsi. No, ma lo dicessero che per arrivare al successo, come l'hanno usato come ascensore sociale. Berlusconi ha questa idea. Anziché cambiare strutturalmente il paese in modo liberale, ha questa idea. Ti do un po' di soldi e farai successo. Non è un'idea liberale, è un'idea medievale, ma feudale. Chi te l'ha questa detto? Qui. Ma te chi è te un'idea detto? Feudale della politica, io ti compro. Ma invece lui deve creare le condizioni perché le persone siano. Ma tu stai parlando dell'attività di governo di Berlusconi, che è un'altra cosa. Ma qui io c'è sono qualcuno. Reaganiano. Qui io c'è sono qualcuno. Reagan. Ma io. Reagan non faceva rifare le tette, Reagan. Lo Se tu sei reaganiano, io sono il Mullah Omar, sono io reaganiano, non tu. Comunque, il problema è un altro qui. C'è un signore che noi conosciamo bene, che si chiama Luca Telese, il quale ha scritto che Berlusconi è colpevole di distruggere i corpi delle donne. Ti rendi conto o no? O ma no? Sì, punto interrogativo. Ti rendi conto o no? Oh no, me ne rendo conto. Allora renditi conto di questa frase e riflettici. Signora Laura, lei con chi sta? Con me o con Parenzo? Ma guardi, a me mi viene da piangere. Scusi, con chi sta lei? Cioè, scrivere Berlusconi è colpevole di distruggere i corpi delle donne è una cosa da talebani. La signora Noemi Letizia ha tutto il diritto di rifarsi le tette, il corpo. Le cose, eccetera. E la colpa, certo, non è di Berlusconi. Certamente no. Ma su questo non c'è dubbio, io sto facendo un ragionamento più ampio. Ma quale più ampio? Dico che le ragazze. Ma non c'è nessun altro ragionamento da fare, questo vabbè, è il punto. Ma lo faccio parlare. Lo faccio parlare. Come? No, parla sempre, non è che non parla. Ha un'idea, ha un'idea della realizzazione della persona che passa attraverso il denaro che lui dà. Ma chi l'ha detto? Ha... Ma chi te l'ha detto così? Non è che l'ha spiegato, secondo me, il progresso di una persona passa attraverso il denaro che gli do. Ma chi l'ha detto? Questa è una cosa, come dire, un'analisi che possiamo fare. Guardiamo i fatti, dice Lampedusa lo risolvo comprandomi una casa, così sono qua e vedo. Vabbè, poi a quella dell'Aquila la terremotata gli regala una dentiera. Ma in che cazzo di paese viviamo? Ma ti ricordi quando regalò la dentiera alla signora? Ha regalato la dentiera, ma deve fare le case, non le dentiere. No, magari la signora era contenta che gli ha regalato Cruciani la dentiera. Cruciani difende la dentiera. Questa no, è ma io non ho difeso la dentiera. L'idea che hai tu della politica è l'idea signorile, no. Il signore, il potente che ti concede, no? Octroyer alla francese, ti concede la dentiera. Octroyer si dice, octroyer. Era la costituzione octroyer. Octroyer, adesso non facciamo i saputelli, che siamo degli ignoranti. Signora Laura, aspetti un attimo, perché abbiamo qui un nostro carissimo amico che introduciamo come al solito in questo modo. Sardelli. Buonasera a voi ragazzi. Come sta, capogruppo di Iniziativa Responsabile? Grazie, bellissimo Sardelli, una dedica bellissima mi ha fatto, grazie. Ma che dedica? Che dedica fa? Mica l'ha fatta a te la dedica, Sardelli. Che stai dicendo? Come no? Ah, che cosa? Sì. Ti ha regalato un libro? Sì. Quando vi siete incontrati? Noi ci scriviamo come gli innamorati quelli veri. Ma scusi, no, adesso bisogna risolvere. Adesso no, lasciamo perdere questa cosa qui perché la moglie di Parenzo è in ascolto e potrebbe aversene a male. Però il punto fondamentale è un altro. Lei ha dedicato qualcosa a Parenzo, oppure Parenzo ci sta prendendo in giro? Qual è il punto? No, il libro di Sardelli me l'ha fatto, mi ha mandato un messaggio, sì, attraverso la redazione della Zanzara, sì, voleva mandarmi la sua opera. Bello, bella cosa questa qua, certo. E infatti, ma lo dico senza ironia, mi ha fatto recapitare alla mia piccola dimora, modesta dimora in Piazza di Pietra. Modesta dimora in Piazza di Pietra, adesso la gente si mette a ridere. Piazza di Pietra è al centro di Roma, un posto bellissimo. Modesta, stai in albergo, un albergo a 4 stelle. Quale modesta dimora, Parenzo? Quale modesta dimora? Modesta dimora, della mia modesta dimora che si affaccia sui tetti di Roma. Scusa, onorevole Sardelli, giustamente ha detto, tu non lo stai a sentire perché come al solito non vi sentite bene. E onorevole Sardelli ha detto una cosa: Parenzo merita molto di più, è vero, onorevole Sardelli? Parenzo tutto è modesto, lui merita molto di più perché è intrigante, irriverente, come io ho scritto nella dedica. Che bella lisciata, che bella lisciata a Parenzo. È una lisciata essere intrigante e riverente. Di questi tempi, tra tutti questi ipocriti, non è una lisciata, è una constatazione. Poi la paga, poi qualche volta gliela fanno pagare questa riverenza. Allora, Parenzo abita a Piazza di Pietra Roma, in un albergo che non è una modesta dimora, dunque smettiamola con questa buffonata. Onorevole Sardelli, prima della pubblicità, poi lei resta con noi, come no, perché ci ha affezionato, le voglio chiedere una cosa. Sto a benedetta, io poi non la voglio più, dopo la chiamerò per altre cose, le giuro. Quando finisce questa storia del governo e dei responsabili delle poste, dei posti di sottosegretari, finiscono la settimana prossima, non ci saranno più responsabili. In che senso, scusi, ci spieghi? Perché bene. Noi andiamo al governo, io ti avevo detto per fine aprile, abbiamo mandato il ministro per fine aprile, abbiamo avuto mo per fine marzo abbiamo avuto il ministro, sì, detto, sì. E ora si conclude, si rafforza la compagine governativa e poi... Cioè qual è il giorno? Il giorno qual è? Ah, settimana prossima ci sarà il Consiglio dei Ministri. Sì. No? Allora, la settimana prossima, ecco, la settimana entro la settimana prossima è sicuro al 100%. Sì. 100%, 100%, Sardelli. Guarda, qui la sicurezza non esiste mai nella vita, meno che mai in politica. Però diciamo quanto? Che siamo, 98, quanto siamo? Possiamo fare una nuova? Diciamo che a condizioni normali, cioè senza che, se non succede un finimondo. Diamo una percentuale, però, Sardelli: 99, 98, 95, 100, 99,9. Io sono sicuro che si conclude, cioè solo qualunque una condizione straordinaria, non so cosa poi. Cosa può impedire? Ma no, non lo impedirà niente, dai, la settimana 100%, allora, 100%. Finisce la storia dei responsabili, sì, avremo un altro nome. E questo è interessante, che nome avrete, scusi? Questo è interessante. Terzo, cioè, polo dei riformisti. Terzo polo dei riformisti. Più o meno. Terzo polo, ma questo qua dove? Alla Camera? Cioè alla Camera, il gruppo alla Camera. Il gruppo alla Camera si chiamerà Terzo Polo dei Riformisti. Il povero Scilipoti che ha presentato il simbolo, ma quella è un'iniziativa responsabile, quello è il partito. Guarda, un attimo, innanzitutto Scilipoti non è povero, perché è un valore. No, ma povero nel senso, buono. Loro lo attaccano sempre, noi glielo diamo. Bersani se lo vuole comprare ne parla sempre. Io non glielo cedo neanche se mi dà D'Alema, Veltroni, non è Mourinho, però. Attenzione, è Mourinho, attenzione, Sardelli. Scilipoti non lo diamo all'opposizione nemmeno in cambio di D'Alema, giusto Sardelli? No, scusa, D'Alema sarebbe troppo poco, neanche se ci danno D'Alema, Veltroni e la Bindi per 3 anni. Se ritenga lui, noi ci teniamo Scilipoti, che vale più di loro. Beh, questa è una dichiarazione pazzesca, capito? Fattene una ragione. Fattene una ragione, caro amico Parenzo, fattene una ragione. Il Luciano Sardelli, capogruppo di Iniziativa Responsabile, che fra poco non sarà più Iniziativa Responsabile, ma Terzo Polo, non mi ricordo come, Terzo Polo del... dei riformatori. Terzo polo dei riformatori. No, lei aveva detto un'altra cosa prima, non è che ha cambiato nome nel frattempo, no? Dei riformisti. Ho capito, ma quindi bisogna essere precisi. Terzo polo di che cosa? Terzo polo? Terzo polo della terza gamba del centrodestra, terzo polo. una forza di cambiamento. Di ho capito, ma il nome esatto quale sarà? Terzo polo dei riformatori o dei riformisti. Ancora dai, non avete deciso. No. Abbiamo la borsa, sì, Parenzo, purtroppo abbiamo la borsa. No, purtroppo, sto scherzando naturalmente. Borsa, torniamo subito, purtroppo perché volevo continuare con Sardelli, ma continueremo tra pochissimo, è qualche istante. Cos'è l'amore? Cos'è l'amore? Sardelli, com'è la canzone? È una salsa, un ballo straordinario. È bellissima, lo sa che è veramente bella. Io adesso non è il mio cantante preferito Albano, però devo dire che queste parole, questa canzone sono, no, ma non lo sto dicendo per dire. Infatti il libro comincia con una salsa, una storia poco onorevole, il libro comincia con una salsa. Però me lo manda anche a me, oltre che a Parenzo, perché sono veramente ci tengo. Ma te se lo do a Parenzo te lo porta, se lo vende. Ma no, è autenticato con la dedica a me, come faccio a darlo a Cruciani? No, se glielo do un altro, se te ne faccio avere un altro a te, Davide, cioè se lo vendi o glielo porti? Perché lui no, glielo porto al direttorissimo, figurati. No, la settimana prossima siamo a Roma, ma probabilmente. Ma usa o guarda le figure, cioè che com'è. Anche perché due... No, io lo leggo. Sardelli, dato... poi sarà compromessa la mia sai chi ho davanti a me? Ah, perché lei dice basta che leggo là dentro, poi passiamo le serate a citare il suo libro e prenderla in giro. Dice no, assolutamente. Sai chi ho davanti a me, grande Cruciani? Chi hai davanti a te? Beh, uno dei personaggi più importanti della Confindustria nazionale. Beh, adesso mi devi fare cazziare in diretta da qualcuno. Chi è? Chi è? È il dottor Ivan Lobello. Dottor Lobello, è dottor su Radio Lobello, 24. Grande protagonista della lotta alla mafia al non sud. Non è vero che sono il più importante, sono uno dei più importanti dirigenti. Un periferico presidente di Confindustria. È imbarazzato per questa via sortita. No, assolutamente non sono imbarazzato. Ah, Lucchè, io Lobello imbarazzato. No, aspetta che ti saluto, parlo con Lobello, adesso non mi interessa più parlare con te. No, aspetta un attimo, passami un attimo, dottor Lobello. Passo, se vuole, non so se vuole, presidente, aspetta un attimo, qui devo sganciare tutto. Presidente? Pronto? Sì, dimmi. Come sta? No, Sardelli, presidente, scusi, Sardelli, presidente di la Confindustria siciliana. Un attimo, dottor Lobello? Sì, sono qua. Eccoci qua. Buonasera, innanzitutto. Buonasera. Buonasera. Come sta? No, tutto bene. Ho incontrato qui un amico per strada, quindi insomma, meglio lei, così. No, adesso non mi faccia fare subito figuraccia. Lei è un ascoltatore della Zanzara oppure no? Sì, preferisco essere un ascoltatore della Zanzara piuttosto che ospite della Zanzara, diciamo la verità. No. Però sono un ascoltatore fidelizzato, quindi insomma rimango nel ruolo di ascoltatore fidelizzato. va bene, grazie. Questo volevo sapere, poi se una volta vuole... L'importante è che ci siano ascoltatori fidelizzati che durino nel tempo. Insomma, questo ecco, però, Presidente Lobello, una volta venga a farsi punzecchiare un po' qui da noi. No, veramente, una delle prossime settimane... Venga da noi a farsi punzecchiare. Cambio ruolo, non faccio l'ascoltatore fidelizzato e mi faccio punzecchiare. Venga, facciamo una cosa a tutto campo sulla politica, cosa manca alla politica oggi. Sì. Visto dalla parte degli industriali, temi, in particolare siciliani. Temi leggeri, insomma. Temi leggerissimi. Grazie. Va bene, grazie. Parenzo, torna con me, non innamorarti del Presidente Lobello. Lo ripasso. Ecco, grazie. Sardelli? Sì, sono qui. Eccoci qua. La settimana prossima si conclude tutto. Vogliamo farlo, Parenzo, prima o poi, dobbiamo farla questa lista dei responsabili che diventano... Sta parlando con altre persone intanto, Parenzo. Sardelli, che dobbiamo fare? È un po' svagato. No, perché adesso, siccome ha incontrato il presidente della Confindustria siciliana, Lobello, adesso deve fare un po' a muina là. Parenzo, quando hai finito di discutere con Lobello e di farti gli affari tuoi, puoi tornare in onda. Non ho sentito, aspetta un attimo, che qua... Aspetta, non ho sentito le cattiverie che hai detto. No, pronto? Ho detto, siccome eri lì adorante nei confronti del dottor Lobello. Adorante, lo conosco da anni, abbiamo fatto un dibattito bellissimo qualche anno fa sulla mafia, le imprese, adorante, sì. Lo conosco da 10 anni, figurati, adorante. Vabbè. Adorante. Allora, Presidente Sardelli, capogruppo... è Lobello, Presidente Lobello, non è che hai detto sei adorante nei confronti di Scilipoti. No, vabbè, basta con questo Scilipoti. Ma Sardelli, ma perché non si sopportano i due? Me lo spiega? No, lei. Perché, guarda, Scilipoti c'è un problema, che uno bravo che lavora, e in questo paese quelli bravi che lavorano sono visti con sospetto. Vabbè, non è che Parenzo odia chi no, lavora. No, Parenzo gli sta simpatico Scilipoti, a Parenzo... Beh, insomma... Simpatico Scilipoti. No, sono molto simpatico. il naso all'insù che ci riporti da fastidio, perché è un proletario che si è fatto strada. Cioè, allora, quelli che parlano dei proletari vogliono che i proletari rimangano proletari, quindi se un proletario lavora, si sacrifica e diventa deputato, cioè, come osa, cioè, chiaro, e quindi lo vogliono. Ma Parenzo non è snob, però, da questo punto di vista, è no, che là insù... Parenzo è un fan di Scilipoti, sono uguali. Sono... Beh, adesso un fan di Scilipoti, Parenzo. No, adesso uguali rasenta la querela per diffamazione, ma non la farò perché non querelo nessuno. Ma perché? Ma tu l'hai conosciuto, ma se non ma infatti, secondo me, gode di una cattiva fama Scilipoti. Ma guarda, Scilipoti, io non per difendere, no? Lei cioè, appartiene allo stesso gruppo. Però, allora, ma Scilipoti, io l'ho voluto io, Vicario, perché uno se l'ha voluto uno lei? Lavora, l'ha voluto lei? Vicario, vicepresidente del gruppo. Ah, no? Vicepresidente del gruppo. Ah, perché cioè, anche perché uno sì. Serio, che lavora, che è corretto, che non obbedisce alle lobby, che non si vende, che fa le battaglie per i consumatori. Cioè, e che poi però c'è una cattiva stampa perché ha salvato Berlusconi. Cioè, chiaro, e che poi... Era stato eletto con l'Italia dei Valori, onorevole Sergio. Bisogna sempre ricordare. Fini era stato eletto con Berlusconi per presidente della Camera. Certo, certo, per carità. Assolutamente. Pure che è una persona coerente, insomma, non lo so. No, viene omaggiato dalla sinistra. In questo voglio appoggiare Sardelli, Parenzo. In questo voglio appoggiare Sardelli. Scilipoti, perché Scilipoti era in sofferenza da un anno, da due anni. Noi e come mai, secondo corte. Lei? Come mai? Ah, voi ci facevate la corte già da tempo. Facevamo la corte, soffriva perché Scilipoti ogni settimana organizza due, tre conferenze, incontri. E non se lo filavano lì Di Pietro. E Di Pietro non è mai andato una volta non c'è mai andato. Ma la corte quando è iniziata la corte a Scilipoti, Sardelli? E devo dire, dopo un annetto, quando l'ho cominciato a conoscere, ho visto che era uno attivo, laborioso. Certo. All'inizio mi sembrava un po' strano, non riuscivo a dire, ma veramente fa tutte queste cose, non ci credevo. Poi ho partecipato, alcuni hanno visto che lui è uno che sta in mezzo alla gente, che segue sai, le associazioni. Cioè dal 2009 che lei lo segue da vicino per cercare di portare da Berlusconi. Sì, sì, lui è stato sempre in sofferenza, lui ha sempre lamentato questo distacco, questo snobismo, questa scarsa considerazione per il suo lavoro. Lei è una sorta di scout, Sardelli, ha fatto scouting con Scilipoti. Ma io lavoro, nella vita precedente facevo il pediatra, faccio un po' il pediatra, quindi sono abituato a stare con le persone che crescono, no? E quindi io e dunque ha cresciuto Scilipoti. Ha allevato per me è una sorpresa, però Scilipoti è uno che lavora, che è serio, che fa la sua parte, che non si vende, uno che no, non che dice non per si vende, dice. Non si vende, in che senso non si vende? Sì, perché lui non cerca di avere le banche come alcune, dice, sai, io c'ho una banca, no? Cioè lui vabbè, adesso questo riferimento alla banca quelli di sinistra, no? Quelli che hanno scoperto. Le banche ce l'avete pure voi, pure Verdini è una banca, le voglio segnalare. La cooperativa, no? Comunque. Beh, insomma, la banca, insomma, segnalato dalla Banca d'Italia, peraltro. Comunque. Per varie cose. Parlava di politica, diceva che c'era una banca. Insomma, sai, non è una cosa che sta molto bene per uno che dovrebbe. Comunque, Scilipoti è il più proletario di tutti. Noi, senta, glielo vuole dare. Ma guarda che il PD non lo vuole Scilipoti, adesso le voglio segnalare. Non lo vuole. Ricordo, non dopo Matura Est, ne parlano male perché in fondo lo desiderano, lo vogliono. Sì, lo apprezzo, no? Si rendono conto che è uno che lavora e che fa bene, e poi è un proletario, che nel PD proletari non ne vedo in Parlamento. Beh, questa è una tesi singolare. Senta, Sardelli, ci può fare l'elenco delle persone che entreranno la settimana prossima al governo? A noi, in esclusiva, ci faccia questo regalo, a noi della Zanzara. Sì, excuse me. Come? No. Ah, lei fa come Urso prima. Fa come l'onorevole Urso prima. No, ho capito. Ci faccia. Ma voi mi volete bene. No, noi le vogliamo molto bene, però. Le vogliamo molto bene. Però se ogni tanto, oltre a regalarci il libro, ci fornisse anche qualche piccola notizia. Oltre no, a ma ce le dà, ce le dà, ce le dà. Devo dire che ce le dà. Da questo punto di vista, Sardelli con noi è molto. Vabbè, la Politori c'è sicuramente perché. Bravo, Politori Cadia c'è sicuramente. Sì, Calearo. Calearo gli hanno proposto, ma lui anche un impegno molto importante, lui ha delle perplessità perché deve seguire l'azienda, vuole comunque seguire il mondo dell'impresa, piccola e media impresa, ma ha problemi di lavoro, ha molto lavoro, molte cose da seguire. Cioè, dunque Calearo no, sostanzialmente. Cioè dipende da lui, ma però è in dubbio che abbia preso un pochettino di riflessione, che sia interessato a dare un contributo anche come però dall'esterno. Sì, cioè, Politori che cos'è? Vice ministro sarà o sottosegretario? Vabbè, poi questo si vede. Questo quello è, si vedrà. La politica si fa un passo alla volta. Un passo alla volta, facciamo un passo alla volta. Mi siti? Si corre e poi si vincono le Olimpiadi. Certo. Se uno pensa di fare il salto mortale quando non sa camminare, finisce. Assolutamente. Mi siti? Mi siti, sì, penso che il vice ministro alle infrastrutture. Mi siti è una persona molto capace, un grande risorto come Cati. Tecnico. Come Cati, che viene dal mondo imprenditoriale, una persona molto giovane, emergente. Pionati, bisogna vedere il ruolo che perché lui è anche un partito, quindi bisogna vedere un attimino come si Pionati. No, bisogna vedere, perché Pionati poi c'ha una competenza specifica, un grande giornalista, se c'è uno spazio nelle telecomunicazioni, sì. Se lui accetta un'altra situazione, cioè sono situazioni da valutare. Cioè, Cesario? Cioè, che cosa potrebbe accettare? Altre cose? Cioè cosa, Pionati? Cioè, oltre... Non lo so, questo poi lo chiude lui, sono valutazioni che stanno cioè, un pacchetto, al Presidente della Repubblica. Comunque Pionati, Cesario, Carearo, cioè, sono tutti risorse. Carearo abbiamo detto di no. Belcastro? Vabbè, sono grandi risorse. O Belcastro o Miro, qualcuno dei due, insomma. O Belcastro o Miro. Di noi tutti, insomma. Ma quanti sarebbero? Quanti sarebbero? Alla fine quanti? 6, 5? Alla fine si chiude, poi ci sarà qualche senatore, cioè si farà una valutazione complessiva, cioè sono persone di grande valore. No, certo, cioè, ma in tutto, quanti saranno questi ingressi? In base anche ai ruoli, alle responsabilità, sai, sì. Cioè, voglio dire, no, poi non è che si mette, voglio dire, il medico a fare... No, certo, per carità, non è mai successo in Italia, tra l'altro. Succede purtroppo molto spesso, però appunto. Cerchiamo di evitarlo. Sì, comunque lei ci può dire, sicuri al 100% sono Polidori e Misiti. No, sicuro al 100% non è nessuno. No, cioè, quello sono morte. Al 100% cioè. In politica, come in conclave, entri i papa dei cardinali. Ah, beh, questo politica, è bello, questo quando... Quando si esce, cioè sono persone che hanno qualità. Va bene, comunque lei ci ha detto delle sicurezze quasi assolute, però bisogna sempre... Polidori e Misiti. Io ti ho detto che il presidente è quell'unico che può dare sicurezza il giorno che firma e delega che la responsabilità. Comunque, poi ci sono altri pure, voglio dire. Ci vediamo la settimana prossima, Sardelli, così mi dà personalmente il libro? Ti devo venire a trovare, ma tu stai a Roma o a Milano? No, settimana prossima siamo a Roma, verso la fine settimana vengo a Roma, così ci incontriamo. Sì, ti do il libro, dove fra l'altro comincia con un ballo, con la salsa. Cioè com'è sta storia? Come inizia? Con un ballo. Cioè, con un ballo, il libro, com'è? C'è un protagonista che balla la salsa e dice che bisogna combattere contro, che il ballo risolverebbe tutti i problemi del mondo, altro che il congresso di Vienna, il Sacro Romano Impero, Yalta. Cioè, chiaro, se facessimo una legge di salubrità mentale con il ballo al centro e poi facessimo ballare Obama, la regina d'Inghilterra, dice un programma pazzesco, Sardelli, il programma di Sardelli, solo una regola è vietato toccare il popolo alla regina. Io penso che con un po', beh, questo qua è un consiglio che dovrebbe dare a Berlusconi, anche evitare far meno guerre, far meno guai, far meno casino, la gente che balla, che canta, è più serena, Berlusconi non c'è bisogno, perché Berlusconi, grazie a Dio, ama la vita e la salute. Sì, anche troppo. Perché ne dica la signora troppo. Di prima, ho sentito, non so chi era, che invece aveva verso la vita un approccio un pochino più bacchettone. Grazie Sardelli, la salsa, il canto e il ballo salverà il mondo. Questo è il programma di Luciano Sardelli, a tra poco. Beh, come no, ci certo. Pensi bene. No, ma io infatti ci sto riflettendo. Traffico. Allora, mi dicono dalla regia... Clamoroso, Cruciani, clamoroso. Cosa clamoroso? Blocca tutto, sono in taxi, fermo a un semaforo. Sì. E dietro di me c'è in macchina Minzolini. Qual è? Non si può andare in macchina. Ecco, Minzolini non può andare in macchina. Clamoroso, è in macchina al centro di Roma. Ma dietro, aspetta, ma sta telefonando. Ho capito, ma che non è Totorrino, non è che ha detto un pericoloso criminale in macchina. Però cioè... qua dietro c'è il tassista che sta anche rallentando. Ma chi se ne frega, Minzolini? Voglio salutare Minzolini, eccolo. Direttore, è Radio 24. È andato via, ecco, al semaforo. Ma io dico, ma è roba da matti. Io dico, attenzione. No, vabbè, non andiamo proprio dietro, perché magari si spaventa. Però scusa, Parenzo, qui c'è un'altra cosa. No, mi dicono dalla regia che siccome forse ho esagerato prima con Telese, ho detto la mia su Telese, credo che ci abbia chiamato, che ci stava ascoltando. Luca? Mi ha salutato. Eccomi. Eccoci qui. Scusa se ti sottraggo al varietà, eh. Che, no, scusa, so varietà, che varietà un corno, un largo, ma qui c'è varietà, il fatto personale. Varietà un corno, perché varietà un corno. Qui c'è il fatto personale, perché forse oggi abbiamo fatto scoppiare il casino in Futura Libertà, per cui varietà proprio non te lo consento. Vabbè, hai fatto scoppiare il casino, ma mi hai dato del talebano e quindi per fatto personale forse non ti è bastata la lezione che hai avuto a Perugia, va rimesso un po' in no, rica, veramente, ecco. La lezione a Perugia è 2-1 per me. Questa è la mia valutazione, cioè 2-1 per me. Abbiamo fatto un confronto, diciamo, è finito che stavano chiamando il 118 per come mi messo male. Ma andiamo al punto. Oh, bada pazzi. Io ovviamente mi diverte che tu, per sostenere il centrodestra in questa sorta di scapigliatura che hai, che dici non me ne frega un cazzo ma sto sempre con loro, ti inventi le cose assurde. E qui c'è una ragazza. Ma scusa, che cosa mi sono inventato? Sfigurata. Ma chi è stata sfigurata? Ma da chi? Solo. Ma da chi? Ma su una committenza abbastanza evidente, io ti chiedo, ma quale padre? Tu sei pure padre di una figlia, sarebbe contento del fatto che il drago costringe, suggerisce, incentiva una ragazza a sfigurare se stessa? No, ma io dico che veramente tu sei vicino alle posizioni del Mullah Omar, eh? Cioè, su questa cosa qui, sei vicino davvero alle posizioni del Mullah Omar. Sei contento se tua figlia... Ma cosa c'entra? Ma non è un argomento questo qua. E poi... finisse nelle mani di un chirurgo plastico che la fa assomigliare un po' a Francesca Dell'Era e un pochetto a Veronica Lario. No, scusami, no. Luca, scusa un attimo, ma io adesso, parlando seriamente, tu hai le prove che il corpo rifatto della signora Noemi Letizia sia opera e volontà di Berlusconi, come hai scritto sul giornale oggi? Hai queste prove o no? È un ragionamento così campato in aria? Le prove sono nelle foto. Berlusconi è... Come le prove sono nelle foto? Con simpatia, ha un modello estetico in testa. Tutte le donne che si avvicinano a lui, e soprattutto queste minorenni e queste ragazze, vengono messe nelle mani di un chirurgo che in alcuni casi è pagato direttamente dal dottor Spinelli, sto parlando del dottor Giacomo Urtis, da non confondere con Jacopo Ortis, che gli fa, questo c'è anche nelle intercettazioni d'inchiesta, gli fa i sederi come vuole lui, gli fa veramente... le labbrotte gommate come vuole lui e la cioè, prova... Cioè tu stai dicendo le prove sono le foto di Noemi Letizia. Gli occhi, dico, e che Noemi Letizia in questa nuova foto sembra Veronica Lario, è uno sguardo di tristezza negli occhi e se uno vede la foto di com'era ragazzina bella e spensierata, acqua e sapone, dice da Gospia, quindi non un moralista, è diventata una ragazza acqua e sciacquone. Mandatemi una musica. No, no, l'ambulanza no, Telese l'ambulanza no. Cioè potrei anche mandarla in questo caso, potrei anche mandarla, ma secondo me ci vuole una bella musica. Ho detto che è contraddittorio, è una cosa a cui forse il centrodestra non è abituato. Ma io che c'entro io col centrodestra innanzitutto? Primo, che c'entro io col centrodestra? Primo, no, in questa difesa forzennata delle posizioni. Ma quale difesa? Neghi l'evidenza, l'evidenza è che se ma tu hai scritto che Berlusconi è colpevole di distruggere i corpi. Il professor Urtis, tu andresti lì e gli meneresti con il randello sulla faccia. Ma, quindi andiamo sulle cose serie. No, ti sbagli. Che tua figlia, e la verità è che tua figlia avrebbe degli anticorpi. Innanzitutto lascia perdere mia figlia, che non c'entra niente. Non è una sgarrupata, non è una sottoproletaria. Ma 5 anni! Che purtroppo, se una sottoproletaria finisce nelle mani dell'uomo più ricco d'Italia, forse il confronto non è pari. Ci stai? No, cioè, ma l'ho detto, questa l'ho detto cosa, bisogna pantofolare Berlusconi e dire che sono paritetici. Ma tu hai veramente un'ossessione, tu hai veramente un'ossessione grave. Cioè un'ossessione veramente grave. Berlusconi, mi dispiace per Noemi Letizia, che quando ma magari lei è contenta di essersi rifatta, ma magari è contenta di essersi rifatta, non si riconosce perché assomiglia a qualcuno che è nella testa di Berlusconi. Luca, scusa un attimo, se uno ha le sue ossessioni, Luca, bene, ma perché non vada a scolpire gli altri? Luca, scusami un attimo, adesso veramente quello che dico, no, Veronica Lario, ma chi se ne frega, non me ne frega niente, ma no, il settimanale oggi che tutti gli italiani possono trovare in edicola. Ma io tu sei... no, a ma Veronica può Lario. Darsi dice, può... ma perché Noemi Letizia, cioè, non ho capito, secondo te, ma perché deve essere canottata? Ti calma, calmati un attimo, calmati un attimo, perché l'ha scelto, magari perché l'ha scelto, perché magari l'ha scelto, pagato da magari l'ha scelto, magari l'ha scelto di essere così, l'ha scelto forse. E come fai a sapere? Vedi Pasolini subì un processo per plagio, Braibanti uno tu sei veramente peggio per plagio degli anni 50. Sei peggio dei talebani. Secondo te, sei una peggio dei talebani. Di 17 anni che va a Arcore ha la stessa possibilità culturale di difendersi da una committenza. Ma che ne sai che Berlusconi gli ha fatto rifare? Che ne sai che c'è. Berlusconi è il committente del seno di fatto, del corpo di fatto di una maledizia? C'è un ufficiale pagatore del seno che vengono pagate queste operazioni dal ragionare Spinelli. Era uno dei benefit delle ragazze dell'Orgentina. State veramente delirando. No, io aggiungo un altro particolare. No, ma dobbiamo chiudere, non hai capito ancora. Dobbiamo chiudere. 30 secondi. Queste ragazze venivano portate a Arcore con un protocollo preciso, vestito di tubino nero, poco trucco e filo di perle, cioè venivano date delle disposizioni. No, ma è sul filo, io non so se sono state. Io sto dicendo, scusate, state zitti un attimo. Lasciate parlare il conduttore o no? Immaginario erotico di Berlusconi che viene trapiantato con il bisturi sulla faccia delle ragazze che si avvicinano a lui. La cosa grave, Giuseppe, è che Nicole Minetti abbia subito delle operazioni. Sei peggio del Mullah Omar. Sei peggio del Mullah Omar. Sei peggio dei talebani. La Minetti è un'adulta consenziente che decide di fare quello che vuole del suo corpo. E tu hai scritto, senza avere mezza prova, che Berlusconi è colpevole di distruggere i corpi delle donne. E con questo. È committente di quella. Ma di tu quella è un delirio. È un delirio. Basta vedere che assomigliano a Veronica Vario per sapere che è vero. È un delirio. Ciao. Grazie di averci telefonato. Grazie di averci telefonato. Grazie. La zanzara è il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa. Non ti preoccupare. Radio 24. La passione si sente.